la prostata per curarla bisogna trombare! Guarda, Cruciani ha una prostata meravigliosa che viene esibita ai congressi medici per dire come si deve tenere la prostata. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. E spara su questo, e spara su quello. Mira al centro, se lo prendi vinci al di là, sinistro, destra. Batti la festa, porta tua sorella che non si dispiacerà. Porta i delusi, i confusi, porta chi ti pare un altro mutuo, accenderò la vita umana. Dovreste essere orgogliosi che questo movimento ha tenuto un po' di democrazia in questo paese. Guardate che io sono sempre a stemperare gli animi, l'ho detto al Presidente della Repubblica, ho detto la mia è una cosa vissuta, ecco perché sono così. L'ho vissuta e sto cercando di temprare animi di gente che vuol prendere fucili, sparare, bastoni, andiamo, la rivoluzione si fa solo così. E dico con calma, abbiamo ancora dei metodi forse democratici, proviamo ancora con quelli. Illustrativo e seguite le istruzioni, a voi tutti i benefici, a noi le controindicazioni. Ma come abbiamo ancora altri metodi? Come se ce ne fossero altri pronti di metodi. C'è il fucile, perché torna la storia dei fucili ogni tanto nei discorsi di Grillo e nei discorsi dei grillini. Questo dopo l'incontro con Napolitano. E ovviamente poi Grillo non si può stupire che la questione dei fucili venga evocata dai giornali, dai giornalisti che lui condanna, e addirittura dice sui giornalisti: vergognatevi, se siamo in questa situazione è anche colpa vostra. Ma dovreste vergognarvi voi, perché una parte e molta parte di questo sfacelo economico, politico, sociale di questo paese è la vostra responsabilità. Ecco perché siamo 69esimi nella scala della libertà di informazione, secondo House of Freedom. Siamo ancora un paese semilibero, grazie anche alla vostra informazione, che fortunatamente non è tutta così. Oh, Grillo si attacca a quelle vecchie classifiche sulla libertà di informazione, House of Freedom, 69esimo, che ci mettono sotto il Congo, sotto non so che cosa, eccetera. No, David, sei vivo? Vecchie classifiche che venivano usate anche contro Berlusconi ormai dal 94, ma sono le stesse che usa Travaglio, tra l'altro, spessissimo, no? Le classifiche. Sì, ma non c'è nessun problema di libertà di informazione, ci sono tanti problemi, ma non c'è la libertà, non c'è problema, non c'è bavaglio, non c'è. Ma poi noi siamo qui a mandare in onda tutto quello che dice Grillo, tutto, chiunque lo ospiterebbe per fare comizi fiume, no? Per dire parole su parole, fare anche qualche domandina, se sì, certo, volesse... non c'è dubbio. La notizia di oggi non è questa che tu stai dando, ma quale? Il dramma è questa notizia di spionaggio dove sarebbe coinvolto il signor Alfano. Ma chi se ne frega, ma è giorni che questa notizia è sui giornali, se ne parla, ovviamente se ne parla nei circoli, perché la gente che sta adesso in macchina, sugli autobus, sui camion, sui taxi, eccetera, non frega nulla. Se fosse vero che i servizi segreti italiani hanno liberato le due donne kazake, amiche... Sei svegliato, Parenzo, sui kazaki, dai, via i kazaki, dobbiamo parlare dei kazaki stasera, dei kazaki, amico mio, ma vai nei circoli a parlare dei kazaki. Ma è una storia di spionaggio. Sì, ma è una storia di spionaggio. Ma vai a parlare dei kazaki. Vai. Poi Grillo dà ordine a Napolitano: sciolga le camere e si vada alle urne. Beh, insomma, non è proprio così semplice. Sciolga le camere e si vada alle urne. Per carità, è una richiesta anche legittima, però. Beh, un leader di partito può chiedere. Sì, per carità. Sì. Però io ho chiesto al presidente: cerchi di fare qualcosa. Lei si è assunto una responsabilità immane. Cerchi di far abrogare l'attuale legge elettorale in quanto incostituzionale, di sciogliere il Parlamento e di ritornare alle urne se è necessario. Oh, poi ha detto che non c'era il wifi lì, no? Tra le sale nelle sale del Quirinale non c'è il wifi, che un po' sorprende, devo dire la verità. E mettetelo sto wifi al Quirinale, no? Cioè, quant'è il budget del Quirinale? Superiore a quello di Buckingham Palace? E mettete un cazzo di wifi, cioè la gente dentro come diavolo lavora, i funzionari del Quirinale, che sono tantissimi. Beh, che sono tantissimi, forse anche troppi. Mettete il wifi, costa 2 euro, pochissimo costa, poi a voi del Quirinale lo farebbero pagare sicuramente di più, e mettetelo, no? Ho ringraziato il presidente della gentile accoglienza, anche se mi ha accolto in una sala dove non c'era neanche il segnale telefonico, non c'è il wifi. Vabbè. Non c'era il wifi, adesso non sappiamo se il wifi non c'era in quella stanza oppure in tutto il Quirinale, sarebbe sorprendente. Non ci fosse in tutto il Quirinale il wifi, mettetelo, perché spendete già un sacco di soldi. Come diavolo rispendono questi soldi, Parenzo? Ma che ne so, io sono torturato dal dramma di Senti, insisti, non mi rompere i coglioni con questa storia dei kazaki, non me ne frega nulla, è una storia complicata, rispia, non me ne frega un cazzo dei kazaki. Abbi pazienza, non me ne frega niente, la moglie del dissidente. Va bene, Ablyazov, la moglie, e figlia del dissidente. Io sapevo neanche che esistesse un dissidente in Kazakistan, non sapevo che esistesse. Ma ti ricordi chi evocò i fucili? Chi evocò i fucili? Bossi, storicamente. Il professor Becchi, qui alla Zanzara. Cioè, siamo governati ancora dalla Merkel, secondo te? Beh, certamente. Dalla Merkel insieme alle banche e al banchiere che abbiamo messo adesso come ministro dell'economia. Beh, insomma, sai, se poi qualcheduno tra qualche mese, sto scherzando, eccetera, prende i fucili, cioè, poi non lamentiamoci, perché insomma, cioè, le banche di guerra ne hanno già fatti abbastanza. Adesso abbiamo messo al ministro dell'economia un altro banchiere. Crozza, Brunetta ce l'ha con me. E spara su quello, e spara su quello. Per esempio, Brunetta ce l'ha con tutti. Ce l'ha con te, Giova, Brunetta, ma ce l'ha anche con me. Ha detto che io sono stato messo qui a Ballarò per far sfigurare quelli di destra, facendoli passare per delle caricature. Ma come posso io far passare un Muppets per una caricatura? È impossibile! Non resisto, sparami sul benemerito. Quando Crozza faceva l'imitazione di Lupi? Cosa, scusi? Crozza faceva l'imitazione di Lupi in studio, seduto sulla poltrona e di cartone. No, guardi che... In studio. No, ma guardi che... No. Me lo ricordo. Ma no. Lo faceva sembrare una caricatura. No, gli faceva dire solo stupidaggi. Onorevole, guardi che Crozza non ha mai fatto l'imitazione di Lupi, tantomeno in studio, L'ho visto io, era uguale. Ma quello che ha visto era Lupi vero. E dice tutte quelle stronzate, Lupi vero? Sai cosa vi dico? Cosa? Però lo fa meglio Parenzo Brunetta di Crozza, ma può decisamente. Com'è? Abbiamo Elena Zanzara. È un programma cretino. Ho già segnalato commissione di vigilanza, segnalazione articolata e con tornelli. Ho messo dei tornelli dappertutto. E sei un cretino. E tutti contro il PDL. Cretino. Vabbè, poi la giornata dell'Aventino del PDL che ottiene la sospensione di 24 ore, non sanno che fare, per cui ottengono la sospensione delle Camere per 24 ore con grandi polemiche all'interno del Partito Democratico. 800 24 00 24, siamo qui. Ovviamente per te è una vergogna questa sospensione delle Camere, no, David? Trovo curioso il voto del PD. Questo, sì, trovi curioso. Trovo una cosa più originale da dire. Secondo, trovo veramente assurdo che il Parlamento chiuda, non si capisce per quale motivo. Si capisce in realtà. No, qual è il motivo? Si capisce, per quello che riguarda il PD, trova un'altra più originale, che non eri concentrato. Matteo Salvini è con noi. Vabbè, lascia perdere. Matteo Salvini è con noi, buonasera. Buonasera a voi. Come andiamo? Andiamo spingendo il passeggino. Spingendo il passeggino. Ma che immagine angelica, che immagine buonista, no? Io chiamo il telefono azzurro, perché se lei sta spingendo il passeggino e contemporaneamente parlando con Cruciani e Parenzo, lei merita di essere segnalato al telefono azzurro. Beh, assolutamente, assolutamente. Crimine contro i bambini, crimine contro i neonati. Lo metto giù. No, che mette giù. Sì, dovrebbe. Perché con i bambini non, sì, dovrebbe farlo. No, ma la cosa mi preoccupa, perché poi a questo punto il linguaggio diventa molto moderato da parte del signor Salvini, no? O no? No, no, assolutamente. Senta, ma lei è preoccupato per il suo pargolo e di questa possibile invasione dopo il Papa a Lampedusa? Perché voi avete parlato di questo anche, no? Che dopo il Papa a Lampedusa ci potrebbe essere un'invasione di extracomunitari, o no? Beh, in due giorni ne sono sbarcati più di 1000, non so se sia una sfortunata coincidenza o che cosa, però ribadisco il diritto del Papa a fare il Papa e a essere buono con tutti. Un politico deve essere buono prima con i suoi cittadini. Ma che succede? Aspetta, che stai facendo, Matteo? No, sono io. Ah, è David, come al solito. No, quando io sento considerazioni che reputo... Ma cosa ha detto di strano? Ha detto che il Papa deve fare il Papa, dopodiché il politico deve fare il Papa. Ha parlato di invasione. Lui ha detto sì, in due giorni ne sono arrivate 1000, dunque il Papa sostanzialmente aiuta i clandestini, questo vuoi dire, Matteo, scusami. No, chi ha usato la visita e la parola del Papa sicuramente non aiuta né il Papa né una civile convivenza, né gli immigrati regolarmente presenti che arrivano in Italia seguendo le regole. Sì, d'accordo, però il Papa ha, guarda che non è che l'ha detto un leghista, l'ha detto Luigi Bisignani qui da noi, cioè il Papa, l'immagine del Papa a Lampedusa aiuta l'arrivo in massa di clandestini, questo non è che l'ha detto un leghista, è tutt'altro. Probabilmente la diffusione planetaria di quelle immagini incentiva l'immigrazione clandestina, questo penso lo possa capire anche un pochino. Dunque, secondo te il Papa deve fare il Papa, però per l'Italia è una cosa negativa questa visita, cioè per l'Italia o per la Padania, non so adesso uguale, no? Questa visita è una roba terribile. Se la poteva risparmiare o no? No, scindo i due piani, ripeto, il Papa deve essere buono, deve parlare agli ultimi, deve parlare ai poveri di tutto il mondo e deve dire che siamo tutti uguali. Sì. Un politico deve tradurre in senso concreto e con buon senso quello che deve fare, quindi secondo me il Papa non ha sbagliato. Però non bisogna seguire le sue indicazioni, cioè bisogna fare un'altra cosa rispetto al Papa. Beh, il Papa quando parla di indifferenza, secondo me, nei confronti degli italiani, che sono il popolo più accogliente, più generoso e meno indifferente del mondo. Sicuramente se sbarcano 1000 persone al giorno ne abbiamo le palle piene. Ma vi hanno un po' rubato la parola fucili i grillini? È un po' geloso dei grillini, No, gli lascio la parola fucili e vedo di usare meno parole come leghista ma di fare più fatti, quindi gli lascio i paroloni e vedo invece di smontare pezzo per pezzo questa Europa e questo euro senza parlare di fucili. Sì. Scusi Salvini, ma io ieri però ho detto una cosa, no? Suscitando scandalo in Parenzo, una cosa vergognosa, sei un provocatore, squallido, eccetera. Questo non l'ha detto Parenzo, ma l'hanno detto in tanti. I barconi, chi prende, cioè sono squallido? Beh, quando fai queste iperbole, sì. Chi prende i barconi lo fa a suo rischio e pericolo, e dunque se uno muore ci sta, cioè no, ovviamente siamo dispiaciuti se uno muore, no, non penso che lei sia contento come boso, no? Immagino di no. Assolutamente, ogni essere umano che muore è una disgrazia, una tragedia. Ma lo espellete boso dalla Lega? No, non è il momento di espellere, è il momento di accogliere nuove persone. Manco non boso. È il momento di buttare fuori, ma è il momento di far arrivare nuove energie che ci sono. Detto questo, se uno sale su un barcone guidato da non si sa chi di notte in 500, sa che cosa rischia, e la colpa non è di quel disgraziato. Colpa di quei comunisti alla Parenzo che fanno presupporre che in Italia c'è spazio, c'è lavoro e ci sono diritti per tutti, quindi la coscienza sporca ce li hanno quelli che li invitano, non quelli che partono. Però... Ma chi è che li invita? Ma come si fa a dire che qualcuno li invita? La gente scappa dove è la fame, no? Per la fame. Allora, vadano a casa della Boldrini e della Chienze. La coscienza sporca ce l'hanno la Boldrini e la Chienze. Traffico, torniamo subito. La Zanzara. Le zanzare di casa mia. Ma la vogliamo smettere con questo buonismo da catto, Parenzo? La vuoi smettere con questo buonismo da catto? Cioè, una cosa deve essere chiara. La vuoi smettere con questo cinismo vomitevole? Non è cinismo vomitevole. Le persone che vanno sui barconi, in parte, non tutti, sono sicuramente dei disgraziati, in senso buono, ovviamente, in senso, cioè, ovviamente bisogna essere sempre vicini ai disgraziati. Vanno però, perché sfidano la paura di morire. Ma non tutti. Hanno fame. Siete due cinici. Due chi? Cinici. Tu e il signor Salvini. Parenzo, questa gente sale sui barconi perché ha fame e nonostante la paura di morire, Parenzo, siccome hanno fame, vengono qui. Chiacchierone. Chiacchierone Parenzo, io sono stato in India. In India ci sono 1 miliardo di persone, di cui 800 milioni di poveri. Sono lontani, però. Sono due. O li aiutiamo in India o non ci stanno 800 milioni di poveri in Italia. Parenzo. Ma non ci vengono. Non ci vengono neanche in Italia perché gli fa schifo venire qui, non ci vengono, non si preoccupi. Ma dove? Beh, ai 1000 sbarcati ieri non faceva così schifo, ai 1000 a cui la Boldrini o la Chienge danno una prospettiva di futuro ma che non quale esiste. Ma vengono qui perché sono di passaggio, poi se ne vanno in Germania dove impostano in Germania lavorare, che gli imposti più accoglienti. Sì, in Svizzera e in Austria che gli stendono i tappeti. Qualcuno si ferma qui a pulire il culo ai vostri anziani padani. Qualcuno si ferma qui a pulire poi il culo ai vostri anziani padani. Altri se ne vanno via, capito? Un po' indietro e ci sono 4 milioni di disoccupati italiani che aspetterebbero solo di pulire il culo se giustamente retribuiti. Non c'è bisogno dell'ultimo brubru che arriva. E invece quegli altri straccioni che hanno attraversato il mare rischiando di morire lo puliscono a 2 lire, vero? E in più li trattate pure così. E allora è bontà far attraversare il mare agli straccioni rischiando di farli affondare. Questa ma è quale bontà? Bontà? Ma chi dice bontà? Io dico solo un po' di umanità nel capire che la gente scappa perché ha fame. Non tutti. Ma sei in conto di morire. Tiri fuori 1000 euro aiutando una missione in Africa. Ma siete due cinici, siete due cinici. Matteo, scusami un attimo, ma Boldrini e Chienghe dunque alimentano il traffico di clandestini? Beh, sicuramente. Se uno dice l'immigrazione clandestina non deve più essere un reato, secondo lei agevola o limita l'immigrazione clandestina? Vabbè, sul reato di immigrazione clandestina si può ragionare, certo, se serva o non serva. Assolutamente. I comportamenti, le parole, le opere, le omissioni della Boldrini e della Chienge, giusto per fare due nomi, sì, alimentano il traffico di esseri umani, fuori dubbio. Senta un attimo, ma alimentano il traffico, è l'opinione sua, cioè io non la condivido, per esempio, perché secondo me non è che le parole di una persona... traffico di esseri umani. Perché? Che? Ma quelli che vengono sono... Non ho capito. La Boldrini aumenta il traffico di esseri umani. No, perché partono spontaneamente, non c'è un mercato, non ci sono degli scafisti. Cioè questo dice, la Boldrini, la terza carica dello Stato, aumenta il traffico di esseri umani. Vabbè, che sia la terza carica non ha importanza. Il comportamento politico e le idee politiche di alcune persone alimentano l'immigrazione clandestina, fuori dubbio. Alimentano. Scusi, ma quelli che vengono sono tutti dei poveracci, come dice Parenzo, degli straccioni che cercano di guadagnare di più, oppure... No, sono miliardari sauditi. Sono dei miliardari che vengono perché vogliono fare la gita con la baracca e morire. Stai calmo che si sente male. Ma dai, su. È arrivato anche Cabobo da là. Quindi lascio a voi giudicare. No, vabbè, no, lascialo giudicare. Cabobo magari era disperato comunque, poi era anche matto. Sono due piani diversi. Se l'Italia può accogliere i 3 miliardi di poveri che ci sono in giro per il mondo, o se è più utile e intelligente aiutare a casa loro i 3 miliardi di poveri. Secondo me affondiamo. Ma come si fa a bloccare l'immigrazione? Bisogna usare le armi ogni tanto. Bisognerebbe usare le armi per bloccare l'immigrazione clandestina, altrimenti come si fa? No, perché non vanno in Francia? Perché non vanno in Spagna? Perché non vanno in Grecia? Perché non vanno a Malta? Perché? Perché li rispediscono indietro, con le buone o con le meno buone. Meno buone come? Cioè bisognerebbe usare anche le cattive, bisognerebbe usare le armi in qualche modo? No, ma in Australia hanno tenuto un barcone per passare indefinitamente, hanno mandato i medici, l'acqua, i viveri, tutto quello che si può fare. E poi il barcone è tornato da noi partito. Beh, però può capitare pure che questo barcone abbia dei problemi, magari gente muore di fame là in mezzo al mare. Magari ogni tanto sì. Ma guardi, non regge lo stereotipo del cattivo. Io dono sangue, quando dono il sangue volontariamente all'AVIS, non so se il mio sangue va a un padano, a un clandestino, a un rom, a uno brutto, a un delinquente, non mi interessa, lo dono perché lo dono. Vabbè, ma quello, certo, di donare sangue. Lo Stato non può donare il sangue dei cittadini senza far sapere ai cittadini dove va il loro sangue, quindi in termini di tasse un clandestino ci costa 500 euro al giorno. Ah, ho capito. 500 euro al giorno. O fanno una legge con l'8 per 1000 per cui i tanti parenti, i pochi parenti, sì, siglano l'otto per mille e lo destinano al mantenimento dei clandestini, sì, oppure basta, eh, oppure basta. Io comunque, guarda, Parenzo, io posso non essere d'accordo su alcune cose, però sulla repressione dell'immigrazione clandestina, perché succede in tutti i paesi, la fanno in tutti i paesi, ma poi mamma mia che, ma che mamma mia, e poi non dai risposte. Mamma mia, cosa ho sentito questa sera? Cosa hai sentito questa sera? Ho sentito dire nell'ordine che tra questi che vengono in Italia ci sarebbero persone che fanno la vacanza esotica perché sfidano la morte, perché hanno soldi tra questi immigrati, perché alla domanda del signor Cuccioli, ma sono tutti poveri quelli che salgono su un barcone e rischiano di... No, sono dei cannatrofi, sono della missione missione avventura, sono miliardari del Marocco, che per avere un... Come, aspetta, stai calmo, pagano? Ma dai, ma se pagano 10.000 euro, come sono? Ti ho letto sui giornali. Come sono? Beh, con 10.000 euro ti compri 5 biglietti andata e ritorno per venire in Italia. E dunque, perché dunque sono abbienti quelli che vengono, quelli che arrivano, cioè non sono poveri. Se uno ha 10.000 euro in tasca potrebbe immigrare legalmente senza salire su un barcone del caso di morire. L'avventura. Dunque, voglio dire, la parola è che quelli piace l'avventura. No, ma guardi, o ci sono delle regole. Se lei vuole andare, se Parenzo vuole andare a fare giornalista in Australia, se ne hanno bisogno lo accolgono, se non ne hanno bisogno lo lasciano fuori. D'accordo. Giustamente, perché in Australia... Però quelli che arrivano, siccome tu dici che pagano 10.000 euro, spendono 10.000 euro, che cosa sono? Cioè, sono finti poveri, cioè finti disgraziati? No, sono sicuramente dei disperati, che però vanno aiutati diversamente che non a Lampedusa. Che non a Lampedusa, altrimenti in via Vincenzo Monti, dove sto passeggiando a Milano, ho già contato 6 persone senza parte che vivono male qua, fanno vivere male quelli che passano loro davanti, ma non aiutano né loro stessi né il prossimo. Allora, però ti devo richiamare per 5 minuti perché voglio parlare di Oliviero Toscani, dopo le 19.15, 5 minuti, passeggino o non passeggino, 800 24 00 24, La Zanzara inizia così, giornale radio. La Zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Caro Parenzo, a proposito della vicenda della Cassazione di Berlusconi, della sentenza che è attesa per il 30 luglio, giù di lì, comunque della Cassazione che anticipa per evitare la prescrizione la sua riunione, no? E il PDL grida allo scandalo, tanto da abbandonare l'aula, diciamo da mettersi sull'Aventino, ottenendo il via libera da parte del Partito Democratico, con i renziani molto incazzati. Questo per fare un po' il quadro della giornata, no? Con i renziani. Ma i renziani cosa hanno fatto? Beh, i renziani hanno fatto delle dichiarazioni dicendo che delle dichiarazioni. Sì, delle dichiarazioni. Delle dichiarazioni hanno fatto. Sì, delle dichiarazioni. Adesso non so il comportamento parlamentare dei renziani qual è stato, perché non bisognava votare nulla. Comunque, per esempio, Rosato, no? Rosato del Partito Democratico, senti, acconsentiamo alla richiesta di sospensione. Noi siamo contrari, e lo abbiamo detto a chiare lettere in conferenza dei capigruppo, a qualsiasi tentativo di blocco delle istituzioni, di qualsiasi tipo e da chiunque proposto. Ma con la stessa chiarezza noi siamo per acconsentire a una richiesta che il capogruppo Brunetta ha posto in termini molto corretti e molto concreti all'interno della conferenza dei colleghi, capigruppo, per favore, colleghi, in cui ha presentato la richiesta di, colleghi, come accaduto lasciatelo in molte finire. Altre situazioni, come è accaduto in molte altre situazioni, di consentire che ci sia una riunione di gruppo congiunta. Allora, io posso dire come la penso, che sospendere le sedute del Parlamento per qualsiasi motivo, non che siano fondamentali, per carità, non che siano fondamentali, per carità, diciamocelo in faccia, le sedute del Parlamento non servono a un cazzo, però aspetta, non servono a un cazzo, dai, nella sostanza non servono a nulla, però una, cioè, una in più, una in meno non cambia la vita. Aspetta un secondo. Ma serve per votare le leggi, no? Ma che discorso è? Sì, una in più, una in meno non serve a niente. Stai calmo, però amici miei, del PDL, a cosa vi serve sospendere per 24 ore? A cosa vi serve? Non sapete che fare, perché non c'è rimedio ormai. Ormai non c'è rimedio, dunque si tenta di prendere tempo, di aspettare, di riunirsi per capire che cosa, se vincono i falchi o vincono le colombe. E il PD si trova in difficoltà perché da una parte dice vabbè, sospendiamo, ma sentite in mattinata cosa aveva detto il capogruppo al Senato Zanda, in mattinata, il signor Zanda. Il Parlamento non può sospendere i suoi lavori. Se un gruppo politico ha bisogno di un po' di tempo, qualche ora di tempo per per la sua discussione interna e per far svolgere la propria assemblea, questo è già accaduto e può accadere, ma quel che è certo è che non si possono sospendere i lavori del Parlamento. Non si possono sospendere i lavori del Parlamento e invece poi è accaduto. Non bisogna parlare troppo presto, signor Zanda, eh? Non bisogna parlare troppo presto. Ovviamente le parole della Santanchè, no? Adesso bisogna passare ai fatti, è un golpe. La zanzara è l'imprendibile insetto che le più volte non lo vedi mai. Dobbiamo prendere atto che c'è un golpe alla libertà, un golpe alla democrazia, un golpe al nostro movimento politico, un golpe nei confronti di Silvio Berlusconi, e quindi adesso credo che è finito il tempo delle riflessioni, è finito il tempo. È finito il tempo delle riflessioni, cosa vuol dire? Cioè, qui la situazione è molto semplice: o fanno cadere il governo oppure no, cioè, oppure si traccheggia. È questa la partita. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Alta tensione per il processo Mediaset in Cassazione, il PDL minaccia la crisi, salta il vertice di maggioranza, fermi per un giorno i lavori delle Camere, bagarre in aula sul voto che rinvia i lavori del Parlamento, i deputati grillini per protesta senza giacca, il ministro Lupi ospite al TG3. Epifani al PDL, le vicende giudiziarie di Berlusconi distinte dall'azione del governo, altrimenti la corda si spezza, i renziani contestano lo stop dei lavori. Incontro al Quirinale tra Grillo e Napolitano, c'è anche Casaleggio, il leader di 5 Stelle, il paese è ormai la catastrofe, si deve tornare alle urne. La Cassazione sul caso Mediaset, nessuna forzatura, è un obbligo della Corte evitare le prescrizioni, ma nulla vieta un rinvio della discussione. Saccomanni e Visco contro Standard & Poor's, il declassamento può destabilizzare l'Italia, i mercati snobbano la bocciatura, bene le aste dei bot. Palermo ha ucciso a coltellate la compagna davanti al figlio di 2 anni. Lei lo aveva denunciato 6 volte per stalking. Rosi, ennesima vittima dell'ex convivente. Siamo qui, 800-2400. 24 ovviamente. David, c'è il collegamento oppure no? Sì, ci sono, adesso ci sono. Adesso ci sei. Matteo Salvini, sempre col passeggino? No, l'ho scaricato alla moglie, altrimenti iniziava a essere un problema. L'ho scaricato alla moglie, cosa pazzesca, l'ho consegnato così, proprio lanciato, hai lanciato. Come fosse un rom, scaricato. Dopo io c'ho la tara, parento dell'immigrazione. Posso dire che sentendo i titoli del TG3, è un paese da barzelletta? Vabbè, però è scontato. Ma è un paese demenziale. PD e PDL che ormai mi provano nella stessa nausea a livello nazionale, sospendono i lavori per un processo. Sì. Grillo e Casaleggio vanno dal Presidente della Repubblica. Sì. Grillo e Casaleggio, Gianni e Pinotto. E poi a Palermo un omicida, 6 volte denunciato per stalking, col Parlamento che settimana scorsa ha approvato lo svuota carceri per chi ha compiuto stalking, è veramente un paese da perché conta. Non emigra, non va via dall'Italia? No, io combatto fino alla fine, fino alla fine, anche se ormai il nemico non è tanto a Roma quanto a Bruxelles, se non ci togliamo dalle balle l'euro e l'Europa. I nazisti, i nazisti, come il terzo e il quarto Reich. Assolutamente, assolutamente. O usciamo dall'euro e finita per tutti. Vabbè, però uscire dall'euro ci provocherebbe degli sconquassi pazzeschi anche. I vantaggi sarebbero sicuramente superiori agli svantaggi. E come fare questa battaglia per uscire dall'euro? Come realizzarla? Anche con una rivolta popolare? Come? Facendo le monete vostre? Come volete fare? Con le rivolte, col consenso popolare. Vabbè, col consenso, sembra facile. Fai i voti. In democrazia o spari o prendi i voti, io non ho voglia di sparare e cerco di prendere i voti dicendo quello che quasi nessuno dice, ovvero sia che il problema è l'euro. O usciamo da questo euro oppure siamo finiti, oppure il nostro lavoro è finito. Scusa Matteo, ma io sono sicuro che a Matteo Salvini non frega assolutamente un cazzo della vicenda di Berlusconi e di Mediaset, giusto? Men che meno. Zero, proprio, non te ne frega nulla. Assolutamente no, è chiaro che c'è un accanimento nei confronti di Berlusconi, però è altrettanto chiaro che per 20 anni un paese non può arrovellarsi intorno ai processi. Cioè Berlusconi interdetto non te ne frega niente, diciamo, Berlusconi interdetto... Non mi sarebbe demenziale, un avversario politico lo sconfiggi politicamente. Vabbè, quello non sono però i partiti che definirebbero interdetto. Fanno più politica alcuni magistrati che alcuni deputati. Però non te ne frega niente. non è il mio primo pensiero quando mi alzo la mattina. Ma perché uno come Boso, io insisto su Boso, che da noi ha dichiarato che è contento se i barconi affondano, gli permettete di rinnovare la tessera della Lega? Così, per curiosità. Perché purtroppo nel paese c'è tanta esasperazione e quindi io vedo di rispondere all'esasperazione con provvedimenti concreti, aiutando la cassa integrazione. Beh, vabbè, quello che c'entra. Azienda. E ci sta, Boso rappresenta una parte del paese che dice cose che non condivido, che però risponde a un'esasperazione. Quindi la Lega in questo momento non deve... Non si può permettere di cacciare Boso, uno che incarna una parte del popolo. Quanti degli ascoltatori in questo momento sintonizzati, magari non lo dicono in radio... No, che però... lo pensino non c'è dubbio. Allora, cioè anche tu nel tuo intimo pensi, no, cioè se cade un barcone dici se la sono voluta? Matteo? Lo richiamate per favore questi dannati telefoni? Che c'è, Parenzo? No, volevo dire tutto. No, di parla, Salvini. Parla, non c'è adesso, parla. No, lo voglio di fronte, lo voglio davanti, voglio la voce di Salvini per fargli un'obiezione sostanziale su Boso. Sì, ho capito, lui dice non ci possiamo permettere, comunque Vittorio D'Alecco, dai, Vittorio D'Alecco. Se uno invita a casa propria un signore e a un certo punto questo signore si mette a fare la pipì sui divani, sì. E tu gli dici, beh no, ma c'è tanto disagio nel paese, cioè, sì. Scusi, però lei a casa mia la pipì sul divano, no, c'è disagio, quindi bisogna tenerlo nella Lega, sì. Perché esprime un malessere, se uno viene a casa mia e fa la pipì sul divano non è che esprime un malessere, fa una cosa Salvini? Molto grave. Matteo? Pronto? Non ho capito se vuoi, se dici che Boso esprime una parte del paese. Eh beh, insomma, la metà dei galeotti presenti nelle carceri italiane sono cittadini extracomunitari clandestini che ci costano 300 euro al giorno a testa. Io non so chi va a pisciare a casa di Parenzo e mi spiace se vanno a pisciare a casa di Parenzo. Io combatto in ogni maniera possibile l'immigrazione clandestina, che peraltro adesso non esiste. No, ma tu dicevi una cosa seria, cioè dicevi che molte persone non dicono quello che pensano, cioè quando cade un barcone, quando affonda un barcone sono contenti, è così secondo te? Ma spero di no quando affondo un barcone, quando lo giri e lo rispedisci indietro. Vabbè, quello sì. Ma non so se ci avete fatto caso, i telegiornali non parlano più di clandestini, parlano di migranti. Sì. Il Papa è andato dai migranti, certo. Non parla di migranti, sono immigrati clandestini, punto. Sono in tutto il mondo immigrati clandestini, in Città del Vaticano sono immigrati clandestini, punto. Ogni mezzo per reprimere l'immigrazione clandestina previsto dalla legge, dal buon senso e dall'umanità è un mezzo benvenuto, punto. Va bene, grazie, ciao Matteo Salvini, grazie a voi. Allora Vittorio D'Alecco, Vittorio, su. Pronto? Allora? Pronto? Sì, dica Vittorio. Buonasera, dunque sono d'accordo per una volta sola anche con Parenzo riguardo agli immigranti. Salvini è molto più politico di Boso, perché Boso ieri sera ha detto una cosa indecente, inumana, inqualificabile, perché Salvini dice che rappresenta la parte del paese, ma penso proprio una piccolissima parte. Allora? Per fortuna gli italiani non sono di questo tipo. Quegli immigranti che vengono con i barconi, dovete sapere, conosco molte storie, sì. Sono dei disperati. Non tutti, ma non andiamo per percentuali. Non tutti. Il 95% sono dei disperati, fanno di tutto per venire in Europa. Poi l'Italia, certo, se l'Italia, sì. La Germania era l'Italia, venivano in Germania, ma noi siamo il... Grazie Vittorio, paese. Michele da Roma, Michele, buonasera. Michele, buonasera. Dica, su. Ma buonasera Gianni. Intanto mi rallegro per la sua condizione della prostata, perché la mia sta piuttosto messa male. Eh beh, come mai? Che è successo? No, mi scusi la battuta. Cioè una cosa no, ma come mai è messa male la sua prostata? Sta messa male, sai, aveva problemi che ci sono in età avanzata. Oh, io volevo farmi... Cioè lei una non domanda. Fa più nulla? Non fa più scusi, Michele, lei non fa più nulla? Non ho no, ha voglia, no, faccio. Che ne so? Ma però è sempre è simpaticissimo. Allora? No, mi ha detto la prostata, eccetera, ho detto vabbè, mi sono... No, come gli ho sentito, la prostata di... sta in... Ma quello l'ha detto Feltri, su, Feltri. L'ha detto Feltri. Vabbè, abbiamo la borsa, un attimo solo. La zanzara. Zanzare, dietro le montagne, in collina, in campagna, e a campare. Zanzare. Radio Parana Libera, prima di dare la parola a Leo Siegel, e potete già cominciare a chiamare allo 02 66 20 35 29, facciamo sentire anche a lui come lo hanno citato e ripreso da Radio 24 ieri alla trasmissione La Zanzara. Radio Padania dà il meglio di sé, caro David, questi alcuni degli ascoltatori che sono intervenuti sulla visita del Papa a Lampedusa. Così Leo Cruciani ieri nel suo programma La Zanzara, che ha aperto rubandoci alcune telefonate. Che furto, che paura, David, abbiamo rubato le telefonate da Radio Padania. Mamma mia, ci denunzino tutti. Senti un altro ascoltatore di Radio Padania però, eh. Padania sempre libera, guarda avanti. Io provo profonda pena, ma un senso veramente di pena, mi creda, quando una persona dice: io ascolto Radio Padania per farmi delle sane risate. E insomma, i due simpatici cialtroni, Cruciani e Parenzo, confondono anche la voce dei conduttori con quella degli ascoltatori. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Beh, ci sarà un motivo però, eh? Ci sarà un motivo! Diciamo che dal punto di vista dei contenuti, spesso l'ascolto, chi si somiglia si piglia, diciamo. Oh, che succede il 30 luglio secondo Crozza? L'esercito di Silvio sarà il billionaire il 30 luglio. Tra l'altro, il 30 luglio, se lo condannano, non so se l'hai capito, caro Giovanni, che non c'è nemmeno l'esercito di Silvio a difenderlo, perché un conto è difenderlo in bassa stagione. Ma l'esercito di Silvio il 30 luglio è già tutto al billionaire, lo capisci? Sentiamo il casino della Camera di oggi, il grande bordello della Camera. Vergogna, vergogna, gridavano i grillini contro il Partito Democratico, soprattutto, che ha detto di sì alla sospensione chiesta dal PDL, in particolare da Brunetta, per protestare contro la Cassazione. Oddio, quanto è lunga questa spiegazione. Comunque, Parlamento che non funziona per 24 ore, sospensione dei lavori parlamentari. A noi non ce ne frega un cazzo della sospensione dei lavori parlamentari, no. Tanto il Parlamento così, un giorno in più, un giorno in meno. No, beh, questo no. Buffoni, buffoni, buffoni, buffoni, buffoni, buffoni, buffoni, buffoni, buffoni, buffoni, buffoni, buffoni, buffoni, buffoni, buffoni. E poi la rissa in cui è coinvolto l'ex portavoce di Franceschini, Martino, sentite. I lavori parlamentari. Michele da Roma. Ma che hanno fatto a Martino? Non ho capito. Ma niente, pare che invece Martino si volesse scagliare contro i grillini. Questa è l'accusa che viene fatta a Martino. Al contrario, comunque, sono Martino, lei sono delle scene, sono delle scene patetiche, sono delle scene ridicole. A noi piacciono moltissimo queste risse, eccetera, ma sono delle scene assurde. Un parlamento, quello si toglie la giacca per protesta, il Parlamento che viene sospeso per 24 ore e per che cosa? Per una riflessione che non serve a niente. Chi deve riflettere su che cosa bisogna riflettere? Che c'entra il Parlamento con la Cassazione? Poi, cioè, cosa c'entra il Parlamento con la Cassazione? Io vorrei capire cosa c'entra il Parlamento con la Cassazione. È vero anche, questo devo dirtelo, Parenzo, questo bisogna dirlo, che non ci possono pigliare per il culo questi qua della Cassazione, eh. Senti qua, ho ricevuto oggi da un ascoltatore, un avvocato, non faccio il nome perché ovviamente non lo posso fare, perché non mi ha detto che posso farlo. Egregio Cruciani, se Berlusconi viene condannato non mi interessa, ma mi interessano le frasi dei giudici di Cassazione secondo cui è loro dovere evitare la prescrizione dei reati e sempre fissano udienza prima del compimento della prescrizione del reato, adempimento definita doverosa prassi. Forse chi non ha a che fare con la Cassazione ci crede, noi no. Per conto di un nostro cliente condannato in primo e in secondo grado, abbiamo depositato il ricorso per Cassazione in data 1 marzo 2013. Il reato si prescriverà il giorno 4 agosto 2013, ma di fatto è già prescritto, perché non ci sono più i tempi per fissare l'udienza di discussione e notificare al difensore il relativo avviso. Notifica che deve avvenire, eccetera, eccetera. La doverosa prassi in questo caso non è stata seguita, così come non viene seguita in innumerevoli altri casi. Questi giudici dovrebbero spiegare al Paese perché prima di Berlusconi non hanno processato il nostro cliente che aveva depositato depositato il ricorso mesi prima e la cui prescrizione maturava prima di quella di Berlusconi. Cordialità, avvocato, eccetera, eccetera, con nome e cognome. Allora dico, se è vero quello che scrive questo avvocato, non è vero che è prassi della Corte di Cassazione intervenire prima della prescrizione. Ci sono tantissimi processi a comuni cittadini che vanno in prescrizione e non c'è una decisione così immediata come è stata quella della Cassazione, per carità, legittima, fosse così per tutti non avrei problemi, però è evidente che ci sono dei giudici che non vogliono arrivare alla prescrizione e vogliono condannare Berlusconi. Su questo non ci sono dubbi, dai, non ci sono dubbi, inutile, inutile stare troppo a discutere su queste cose. Chi c'era? Michele? Ha parlato Michele? No, Michele, dai. È qui, pazientemente in attesa. Allora? Allora, Cruciani, io intanto volevo farle una domanda. Non so se è un problema di audience, eccetera, ma lei, che è una persona intelligente, acutamente ironico, come fa ad affiancarsi a un idiota di un Parenzio? Me lo vuole spiegare? Allora, lei ha detto due stupidaggini. Primo, idiota, vabbè, ma questo ne risponderà davanti alle alte corti della magistratura. Secondo, Parenzio ha storpiato il nome apposta per prendere per il culo, e dunque lei è doppiamente imbecille. La ringrazio. Ma come la ringrazio? Che vuol dire la ringrazio? La ringrazio molto. Scusi, Michele, abbia pazienza. Lei dà dell'idiota uno e poi si aspetta che io sia così. Comunque, Parenzo, rispondi tu. No, ma uno che dice la ringrazio, vabbè, niente, d'accordo, grazie di aver chiamato, complimenti. Lo vede? Che c'ha? Che ha fatto? Non fa una piega. Allora, pronto? Michele, parli però. Sì. Ma riesce a mettere un soggetto, un verbo e un complemento oggetto? Non ci possiamo non fermare troppo così. Ricche. Guardi, non niente, lei mi ha dato dell'imbecille. Quindi, no, ma scusi, lei ha dato dell'idiota. Ma lei mi dà dell'idiota, ma uno potrà dare dell'imbecille. Noi rispondiamo pane al pane, vino al vino, rispondiamo veloce, rispondiamo rapido, pan per focaccia. Siete, comunque, nonostante tutto, nonostante la sua risposta a me poco gradita, Cruciani continua ad essere estremamente simpatico. Vabbè, Michele. Tolto questo, sì. Io volevo soltanto far notare una cosa. Faccia notare, sì. Tutto il patatrac che sta succedendo alla Camera, eccetera, eccetera. Ma ci rendiamo conto di quanto Berlusconi ancora riesce a condizionare la vita addirittura del Parlamento? Vabbè, è così, Italia. Però si arrenda, è così, Michele. No, la cosa bella è che ha aspettato tutto il giorno. Io mi voglio arrendere, ci mancherebbe. No, non è un problema di arrendersi o meno. In realtà su questo è d'accordo con te, Parenzo, che Berlusconi condiziona continuamente, però è un dato di fatto, Michele, cioè una cosa scontata quella che lei sta dicendo. È certo che condiziona la vita del Parlamento, la condiziona da oltre 20 anni. È un dato di, io lo prendo come un dato di fatto, ormai non me ne frega più niente di discutere. E quindi a questo punto subentra l'eliminazione per via giudiziaria. Ma quella è un altro discorso, l'eliminazione per via giudiziaria. Non trovo che sia molto collegato, scusi. Guardi, che ci siano dei giudici che vogliono eliminare Berlusconi, non c'è dubbio. Questo glielo dico sin dall'inizio. Per Parenzo non è così, per cui. Roberto da Torino, buonasera. No, ma voglio dire questo qua. Dimmi. No, questo signore qua ha lavorato tutto il giorno, ma è tutto il giorno che aspettava di fare questa considerazione. Poi è tornato a casa, ha preso il suo telefono 800-24 e ha fatto questa considerazione apocalittica, questa considerazione profondissima. Roberto. Sì, Parenzo. Ciao Parenzo, volevo dirti una cosa. Ciao. Secondo me, se tu un giorno prendi e fai il tratto tra Rosario e Milano fino ad arrivare a fine di via McMahon, quindi passando per Quarto Giaro, eccetera, vedi delle cose che istantaneamente ti fanno capire, a te che sei una persona sensibile, come fanno capire a me che sono una persona sensibile, da dove nasce quella che il Papa chiama la globalizzazione dell'indifferenza. Cioè? E cioè, basta farsi un giro di là e vedere queste zone di mezzo abbandonate, invase, invivibili, in cui c'è da cagarsi addosso a girare da un certo orario poi, ma anche in pieno giorno. Sì. E vuol dire che la gente poi, quando c'ha i cazzi suoi a cui pensare e si vede intaccata e in pericolo per via di determinate situazioni, a quel punto, pur essendo la stragrande maggioranza brava gente, scatta l'indifferenza. è inevitabile. Va bene, Elia da Torino, Elia, sì, no, ho capito, lei ha ragione, ma lei ha ragione, lei ha ragione, quei territori, per usare l'espressione di un grande sociologo francese che Cruciani conosce senz'altro, quei territori lì sono i cosiddetti territori perduti della Repubblica, cioè quelle zone dove non c'è il governo. Ma non è per questo che noi possiamo dire no all'immigrazione, perché questi Elia da Torino, tu mi senti? Dica, dica. Voi mi sentite? Sì, più o meno. Ok. Ok, niente, Mr. Cruciani, io volevo dirle che lei è un douchebag, signor Cruciani. Lei tutti i giorni ci sbatte in faccia la sua insensibilità e questo lo trovo sbagliatissimo. Cambi canale. Sì, amico mio. Cruciani, io ti voglio bene, hai capito? Io ti voglio bene, veramente voglio ancora più bene a Parenzo. Perché tu ho capito, Elia, ma la mia insensibilità, che vuol dire la mia insensibilità? Lei pensa che io sia davvero insensibile? Non lo so, magari sarà sensibile a giocare a biliardo, calcetto, a viaggiare, voglio dire, però lei non può dire chi prende i barconi li prende a suo rischio e pericolo. Assolutamente sì, lo dico e lo ripeto fortissimo, lo dico e lo ripeto fortissimamente, chi prende un barcone lo fa a suo rischio e pericolo, assolutamente. Dopodiché se il barcone cade e affonda e la gente crepa, io ovviamente me ne dispiaccio, però diciamo la verità, non è che non ci dormo la notte, diciamola tutta, e lo dovrebbero dire tutti, perché nessuno di noi, pochissimi in realtà, non ci dormono la notte. Io non ci registro, mi dispiace per un secondo uno, dopodiché francamente lo dico proprio in piena coscienza e lo dico anche in maniera esplicita, chiara, trasparente, non ci penso più. Sarà una mia colpa, una mia responsabilità, eccetera. Però non è che sto lì ad alambiccarmi, oddio, sono morte 50 persone nel canale di Sicilia. No, no, lo devo dire perché io sono esplicito, sono trasparente su questo, Elia. Cruciani, fammi parlare pure a me, per cortesia. Allora, innanzitutto, cioè, uno che dice chi prende il balcone di Marzo Ricca, allora, innanzitutto sta dicendo una grande ovvietà. Ma non è un'ovvietà, anche le cose nessuno, più ovvie, anche le cose. Che dall'altra parte ti punta la pistola alla tempia e dici tu, stronzo, prendi sto cazzo, prendi sto balcone e vattene a Lampedusa. Per cui, cioè, voglio dire, è una grande ovvietà. Vabbè, poi? Uno. Due che? Due non c'è più, è sparito, che ha fatto? Vabbè, è sparito. Oh, un grande ritorno alla Zanzara, un grande ritorno. Beh, l'ho incontrata in grandissima forma, caro David, grandissima forma. Beh, con un vestito blu bellissimo, l'altro giorno in un ristorante di Roma, sai chi è? Non lo sai. Beh, non posso saperlo. Ma è un vestito blu, la spilla di Forza Italia, già preparata all'evento, spilletta di Forza Italia che portava già prima, credo, molto in forma, non so, in forma smagliante, nonostante tutti questi disastri su Berlusconi, cioè che dovrebbero renderla piuttosto nervosa, però l'ho vista in forma smagliante, non che tra le due cose ci sia un collegamento, per carità. Però è con noi Michela Biancofiore, buonasera. Buonasera a tutti. Ma quello perché noi berlusconiani siamo stoici e quindi siccome sappiamo di essere dalla parte della ragione, siamo assolutamente equilibrati e sereni. Ma mi era sembrata veramente in forma. Non è che c'è un fidanzato dietro l'angolo? No, assolutamente no. È perché ho letto da qualche parte. Tutte voci. Com'è che la gente, come sono sempre dei gossip su di lei? Uno può uscire, ma sempre dei gossip, è sempre lo stesso, solo uno, parliamo sempre della stessa persona. Una persona può anche venirmi a trovare in Italia, anche se uno non è più fidanzato. Ah, era il suo ex, quello con cui l'hanno vista, era il suo ex fidanzato. Vabbè, ho capito, ma infatti non è... non ero al ristorante citato. Vabbè, comunque l'hanno vista con un signore leggermente colored e allora l'hanno, come dire, leggermente abbronzato, brasiliano di colore. Brasiliano. E l'hanno fatta fidanzata, invece ci rassicura che non è così. Dunque, purtroppo no, vorrei molto innamorarmi. Sono innamorata soltanto della politica in questa fase. Ah, che prende tutto, ma non sarà per quello che uno non trova, perché è molto difficile anche per i giornalisti, ma in generale quando uno fa politica non è più complicato. No, perché io sono una innamorata dell'amore, quindi è per quello che forse uno non trova mai la soddisfazione reale. Lo so, e la politica però prende troppo tempo pure, un uomo non è che un uomo sta dietro ad una donna che ha troppi impegni. Ho bisogno trovare uno adatto, capito Parenzo? Anche questo lavoro che facciamo noi, così avvolgente, così travolgente, in certi momenti ci allontana dalle nostre, come dire, amate, no? Ogni tanto, dai nostri amori, che siano questi qua di un giorno, che siano questi qua di una vita, che siano questi qua di mesi. Come sono poetico stasera. Sì, cioè, uno spera sempre in quello della... Come? Uno spera sempre in quello della vita, di amore. Sì, no, comunque io dico, qualsiasi amore sia, questo lavoro così travolgente, caro David, un po' ci allontana, o sbaglio? David, dammi conforto in questa mia teoria, ti prego. No, ma adesso che una persona distante, fredda, cinica, lontana, come te, che si rotola nel fango, pensare che possa avere un cuore, io non credo, neanche se ti fanno un'operazione a cuore, diciamo a torace aperto, si trova. Secondo me si trova una roba di latta, una cosa di latta collegata con degli elettrodi che si muove per far circolare il sangue, ma non c'è un cuore. Non c'è un cuore. È una roba di latta fatta a forma di zanzara che non batte neanche regolarmente, ma sono degli elettrodi, non è una roba, non è una cosa normale. Siete buoni uno nei confronti dell'altro. Ma ha sentito che cosa tremente che mi dice? C'è un cuore, non è possibile che ci sia un cuore. C'è una roba che fa, come dire, circolare la cosa diastolica e sistolica, che sono le due, no? Le due pressioni, il sangue, la circolazione del sangue, si muove grazie a questo tamburo di latta fatto a forma di zanzara, collegato con degli elettrodi, ma non c'è un cuore, ecco. Questo non è possibile, quando dicono pazzesca. Operazione a cuore aperto su Cruciani, non è possibile, non è a cuore, è a latta aperta in questo caso. Ma sei tremendo. Una zanzara di latta e non c'è un cuore. Comunque qui abbiamo un ospite e ce la stiamo cantando e suonando io e te. Allora, la cosa è questa, mi stanno tra l'altro dicendo David Parenzo sta a fare... Biancofiore. È il nostro ospite, è uno dei nostri preferiti per l'altro. Biancofiore. White, come dici tu, White Flower. Senta però, siamo a Biancofiore, la sospensione dei 24 ore del lavoro delle camere, ma a che serve? O fate un'azione forte. 24 ore, ma infatti sono d'accordo con te, io sai che sono assolutamente dell'ala intransigente, dell'ala passionale, io credo che i falchi, oggi, cosiddetti falchi. No, non sono guardi, mai come in questo momento il partito è realmente unito nella vicinanza a Silvio Berlusconi, magari chi ha più interesse a tenere la poltrona o meno, ma e chi ha più interesse a tenere la poltrona? Chi ha più interesse? Non faccio nomi, non sto parlando in generale. Per il ministro De Girolamo, lo vedo molto moderato su questa vicenda qua. Come mai? Ci tiene alla poltrona? Lo so, io non parlo per Nunzia, che comunque è una berlusconiana convinta e quindi non metto assolutamente poca in quello che fa, che dice, nei suoi pensieri, nel suo modo gesto. Però scusi, i ministri non dovrebbero dimettersi? No, non vedo, non c'entra niente. Adesso il governo con l'attività, diciamo così, con quello che è successo, come no, l'opzione della causa, francamente non c'entra. C'entra il contrario, cioè nel senso che sicuramente il governo sarà influenzato in caso di una sentenza negativa, ma non perché la vogliamo noi, perché purtroppo sarà nelle cose. Cioè, quindi, mi spieghi un attimo, aspetti, questo è interessante. In realtà lei oggi dice... per noi è un rafforzamento essere all'interno del governo, parliamoci chiaro, perché semplicemente è molto evidente il fatto che all'interno del governo noi abbiamo comunque la capacità e la possibilità, insomma, di influire, attenzionare maggiormente l'opinione pubblica su quello che sta accadendo. Cioè è meglio stare al governo, ho capito, lei dice, meglio stare al governo per influenzare l'opinione pubblica rispetto a stare fuori e fare solo... Per influenzare l'opinione pubblica, che non si sta al governo per influenzare l'opinione pubblica, lei lo dice. Ma all'interno del governo si sensibilizza anche l'altra parte politica, perché vede, oggi tocca a noi, domani toccherà a loro, è questo che non hanno capito. Beh, non ci sarà un altro caso Berlusconi, ce ne saranno tanti di casi Berlusconi se dovesse accadere ancora, certamente il suo è il caso più clamoroso, anche perché si sta perseguendo per via giudiziaria un innocente, insomma, quando poi ladri, assassini, violentatori sono per strada. Io vorrei sapere quanto tempo si è perso per il processo Ruby e quanto se ne è invece risparmiato in favore di assassini, violentatori e via discorrendo, o appunto per una frode fiscale, perché ricordiamo a chi ci ascolta, frode fiscale. La frode fiscale si parla, eventualmente fosse messa in finita, invece sono sicura che Berlusconi è innocente, perché lo conosco, di un'evasione di 3-4 milioni di euro in tutte e due Robetta, gli anni, 2003-2004, a fronte di 397 milioni di euro versati. Ora un'azienda che versa all'erario pubblico 397 milioni di euro e vade per tre per farci che... Però scusi, Biancofiore, lei sa benissimo. Ma guardi che la ricandida lo stesso, Che quando guardi... Guarda, io ho detto già, guardi che la ricandida lo stesso. Quando non ci sarà Berlusconi, a me non interesserà più fare politica, perché non crede nessun altro leader in questo però paese. Scusi, Biancofiore, bisogna dire che uno quando si fanno... Ma non si ricandiderà più qualora non ci... Questo l'ha già detto, l'ho detto già in tempi non sospetti, l'ho detto anche a lui personalmente, quindi però c'è Bianco Fiore, sì, uno non è che fa l'evasione. Berlusconi quello potrebbe essere. Ah, se con Marina, con Marina forse, forse. Io l'ho detto in tempi nostri, sì, che Marina è la nostra Renzi, l'ho detto, la nostra Renzi per la verità. È la numero uno, e resta per lei la numero uno da questo punto di vista, cioè. Molto simile al padre, io non voglio tirarla per la giacca perché è molto sconveniente. Però in queste ore dovrebbe scendere in campo. Se lo facesse in queste ore non c'è bisogno che scenda in campo, l'ha già fatto tante volte dando delle facendo delle precisazioni molto serie sulle questioni che riguardano il padre, con un accoramento ovviamente di figlia che è incomiato. Un aspetto, un dispiacere, sto male io, immagino come possano stare. Ma lei quanto sta male? Quanto sta male lei? L'altro giorno quando ho visto, ieri, quando ho visto la notizia della Cassazione che antecipava al 30 luglio il pronunciamento su Berlusconi, devo dire che umanamente... No, ma quanto sta male proprio? Cioè, molto, voi prendete in giro. No, non dorme la notte, non dorme la notte? Ieri sera in molti non abbiamo dormito dopo la lunga riunione. Non dorme la notte. Perché voi non capite che noi a Berlusconi siamo... affettivamente legato. No, adesso torniamo su questo, sull'affetto. Io lui è un leader, ma un leader al quale siamo legati da profondo affetto. Noi lo condividiamo fino Guarda che gli affetti sono fondamentali. Un attimo che c'è la borsa, ma non lo dico con ironia, la borsa, la pubblicità, non lo dico perché a noi piacciono molto queste cose di affetti. La zanzara. Oh, siamo qui 800 24 00 24, la zanzara su Radio 24. Davide Parenzi in collegamento da Roma, sempre da Roma, dal suo ufficio alla pubblica amministrazione. Non le vogliono dare lo sport, ma com'è questa cosa? C'è Biancofiore, perché non le vogliono dare lo sport? È una cosa veramente pazzesca. Me l'hanno già dato lo sport, che io sappia, risulta dal verbale del consiglio. Ho capito. E poi non so perché non è stato scritto nero su bianco. E perché? Chi è che resiste? Aspetto notizie. Ma non c'è qualcuno che respinge? È un problema di tempi, di problemi. Ce ne dovrebbe essere anche il ministro dello sport, diciamo la verità. Dovrebbe essere una sorta di ministro dello sport, giusto? Questo è l'accordo politico che hanno trovato. Parenzo, perché ridi? Perché ridi? È Alfano. Perché ridi? Non può farmi. Ho deciso io di darmi la delega allo sport. Perché ridi, Parenzo? Non ho capito. Il ministro dello sport, secondo lui. Invece ti sbaglia, perché io ero di parte. Il ministro dello sport per i salti in aria che fa nel difendere Berlusconi, certo. Ma perché? No, salti in aria no, magari i salti con l'asta. Ma che ha fatto? Ha fatto lo sport qualche volta? La capacità di fare, di difendere Berlusconi. Campionato mondiale la Biancofiore. Da quando ovviamente faccio politica, faccio yoga da un paio d'anni. Quando faccio politica fa yoga, è più difficile. Sì. Faccio yoga. Fa yoga, che non è uno sport olimpico. È un olimpico, ma è già regolamentato. Non è uno sport olimpico, ma è uno sport che fa molto bene all'anima. Ma come va? No, ma effettivamente lei, adesso che ci penso, Biancofiore, ha le competenze per fare ministro dello sport? Sì, quali sarebbero? Scusa. Perché è un'olimpionica della difesa di Berlusconi, è un'olimpionica. Bravo, potrebbe essere già un grande merito e me lo metto tutto sul petto. Lei è un'olimpionica, perché soltanto una come lei può dire che era la nipote di Mubarak. Quindi ancora mi sembra che lei che la stessa Karima El Maghreb abbia già testimoniato di aver detto questa cosa, quindi ancora è un'olimpionica. Sul suo passaporto lei c'era scritto ancora Mubarak, ancora questa comunque, ma non l'avete ancora finita. Ma lui continua sempre con sto Mubarak, fate ridere tutto il mondo. Ma Parenzo che fa è fissato ancora con questa cosa, fissato, la nipote di Mubarak. Fissato. Avete delle pruderie. Ma veramente l'ha visto alla Rai o no, signor Parenzo? Lì, no, non l'ho visto. La Ravetto, guardo poco la televisione io, perché purtroppo sto sempre a lavorare. Ravetto Busi l'amore. L'ha visto Ravetto Busi? No, ho lo scontro pazzesco. Ho visto. Vabbè, non ha visto niente. Comunque lo yoga mi interessa. Ma perché fanno tutti yoga? Non capisco perché. Tutti. È un insegnante super. Ah, pure insegnante? Sì, è un insegnante fantastico. Dunque lei è perfetto. Perfetto per fare il ministro dello sport. No, ho un insegnante, non sono insegnante, magari fossi insegnante di yoga. Beh, insomma, competenze nel calcio ne ho molte, questo glielo posso assicurare. È vicepresidente del Bolzano, ha fatto, non è che ha competenze nel calcio. Capito, sono una che se ne intende molto. Perché squadra tifa? Sono un'altra di donne che se ne intende così di calcio. Perché? Auguri. Io perché sono squadra una tifa? Profonda intenditrice, a me piace moltissimo, peraltro, il calcio. Perché quando squadra tifa? La nazionale sono in campo. Perché squadra tifa, scusi, siamo a capire. non mi dica il Milan come sottosegretario allo sport, forse come dite voi giustamente non si dice. Ma no, come no, non tipo per il Milan, ho per il Milan, però io tipo per la nazionale, questo è tutti, in maniera quello no, ma io in maniera devastante, quando ci sono i mondiali, se l'anno prossimo sarò sottosegretario allo sport, andiamo in Brasile, mi vedrete praticamente in campo a fare il centravanti di sfondamento. Cioè praticamente sempre in Brasile praticamente, Sì, praticamente. Praticamente, beh, giusto. No, che c'entra, ho detto colori brasiliani, non è brasiliano la persona alla quale lei fa riferimento. No, sempre in Brasile, sto dicendo perché mondiali. Ci sono i mondiali in Brasile, no? Certo. Sempre. Poi mi piacciono altre squadre in Italia, ho simpatia per un paio di squadre, diciamo. Per un paio di squadre, solo. Comunque, torniamo alle cose, perché lei mi sembra troppo allegra per questa cosa di Berlusconi. Non sono allegra per niente, guardi, dopo una giornata La facciamo divagare un po', no? Dopo quelli che i tedeschi chiamano Partei Ausschuss, cioè ritiro di partito tutto il giorno, e ieri notte fino alle 2 le posso assicurare che non sono assolutamente allegra. Mi comunque, fate ridere voi, e quindi la cosa fondamentale è questa. Berlusconi condannato il 30 luglio, cosa succede? Vediamo. Lei si dimette un minuto dopo? Noi abbiamo già dato le dimissioni in bianco praticamente, stiamo facendo tutta una serie di punti di cose che siamo e vogliamo fare con forza, determinazione, passione, affetto nei confronti di Silvio Berlusconi. Le nostre dimissioni di tutti sono già sul tavolo del presidente Berlusconi, di tutti indiscutibilmente. Cioè se il 30 luglio c'è la sentenza sfavorevole a Berlusconi con l'interdizione, ci sono già le dimissioni pronte? Sì. Ovviamente sarà il presidente Berlusconi che deciderà se accettarle, cosa vabbè, farne, però per lei che dovrebbe fare? Accettarle al volo? Io purtroppo non ho la sfera di cristallo. No, non so che cosa accadrà. Non è che la sua vita può dipendere da Berlusconi, signor Biancofiore. Ma invece sì, perché noi abbiamo legato, la mia vita politica è legata ma anche altro, a quella di anche Silvio altro, Berlusconi, anche tutta la sua vita in generale, secondo me. No, assolutamente. La mia vita politica, io devo tutto il mio percorso politico a Silvio Berlusconi. E come me, diciamo tutti e 200 parlamentari che sono legati a lui. Quindi è ovvio che il mio percorso politico, ma io lo non vi è chiaro. Che noi ieri all'unanimità abbiamo detto tutti la stessa cosa, noi condividiamo fino in fondo la persona Silvio Berlusconi. Mi avete interrotto prima con la pubblicità, forse fatto pure apposta, ma io vi ho detto ieri per Angelino Alfano, ripreso poi nel mio discorso ha detto una cosa bellissima, ha detto A, insieme è la parola che ci sta contraddistinguendo in questo momento. B, ha detto un'altra cosa, che ha detto? Il profilo che i media e voi stessi, ancora David con questa storia di Mubarak eccetera, date di Silvio Berlusconi non corrisponde minimamente al Silvio Berlusconi che noi conosciamo, viviamo quotidianamente affettivamente. Silvio Berlusconi è una persona per bene, ma fa lo yoga? Innocente, lo yoga lo pulita, fa? Non lo fa, ma lo dovrebbe fare perché deve scendere, come dire, dovrebbe scendergli assolutamente il diaframma. Come il diaframma, scusi? Il diaframma, perché lo yoga ti fa scendere il diaframma e ti fa respirare meglio. E dunque Berlusconi dovrebbe fare yoga. Gli do un consiglio a Berlusconi, perché non la può? Farebbe gran bene, glielo dico sempre. E perché non lo fa? Lo yoga, Berlusconi che fa lo yoga. Che rara. Sarebbe non è un tiranno purtroppo, perché se lo fosse le cose sarebbero andate molto diversamente in questo paese negli ultimi 20 anni. Cioè, è una persona seria, sarebbe stato meglio, sarebbe stato meglio se avesse fatto il tiranno, no? No, se avesse il carattere del tiranno, non se avesse fatto il tiranno, no, cioè, ma se fosse quello che voi tutti descrivete, l'uomo forte, se fosse l'uomo una forte. Persona forte realmente, invece una persona che cerca sempre la conciliazione, una persona educativa, pure troppo, una pure troppo. Di una cortesia, sì, pure troppo, purtroppo. Io questo che voi dite che io sono iper berlusconiana, sì, è vero, ma io non mai le critiche. Se ci sono due cose che Berlusconi non sa fare, sciogliersi le persone accanto in genere, e purtroppo è troppo buono. È troppo buono. Scusi un attimo, però io l'ipotesi impossibile, no? Anche se qualcuno ci pensa, Berlusconi che assolto. È condannato, no, assolto, mi sembra un po' complicato. Io penso che sia possa essere in galera. Questa ipotesi qua, cosa le fa venire in mente? Quale atto le fa venire in mente di opposizione a questa cosa? No, Biancofiore. Io sono. Ma noi dobbiamo scendere, io l'ho già detto, ma questo che dovete fare? Ho dato vita a questo sito e a questa associazione che si intitola Liberiamo la Giustizia, intanto vabbè, perché d'accordo. Dobbiamo portare va la bene. Giustizia migliore però dalla l'atto, nostra parte, l'atto, che è la stragrande maggioranza in Italia. Sì, ma l'atto la cosa è un fiume di gente, non di partito, di gente, che scende in piazza col lutto al braccio, perché in un caso del genere significa che lutto si sarebbe eliminata per via giudiziaria innanzitutto un'innocenza, ma anche dopo il 30 luglio? Soprattutto dopo il 30 luglio, perché sarebbe un'infamia un'infamia. Cosa del genere. Scusate, perché non andando venite certa, io sono quasi convinta, guardate che invece sarà scagionato. Vabbè, quello nel merito, vedremo, perché dai. Non può la Cassazione, ma nel giudizio di legittimità sarà scagionato. Scusi un attimo, ma questi giudici della Cassazione dovrebbero mettersi la mano sulla coscienza, secondo lei? Questi ma io penso che dovrebbero mettersi la mano sul diritto, punto. No, vabbè, ma anche se sulla coscienza, sul anche sulla coscienza. Ma la coscienza non c'entra in questo caso, non c'entra perché niente, eh. Penso che cioè, ci sono dei fatti in punto. Però il lutto al braccio, adesso non è che fa l'avvocato lei, lasci il mestiere al signor Coppi, signor Biancofiore, che forse lo sa, lo conosce meglio. Sicuramente è più bravo di me, appunto. Ma lo lascerei anche a Titta Madia, che oggi vediamo, dai. Proprio, come dire, ha espresso. Ma di chi è questo complotto? Questo complotto, molto. Questo complotto che c'è stato per questa fretta, diciamo, per questo. No, beh, per io l'ho detto ieri al solito partito del Corriere della Sera, di una parte. Vabbè, Corriere della Sera, che hanno fatto? Sera, l'hanno anche ripreso con molta onestà intellettuale il mio intervento. Ho capito, ma che hanno fatto? Guardi, hanno affrettato i tempi. Che hanno fatto? Ancora nel 94, tutti ricordiamo, avviso di garanzia mai recepito dalla persona Silvio Berlusconi, è arrivato in prima pagina sul Corriere della Sera. Vabbè, lo sappiamo, sì. Vabbè, lo sappiamo, il sì. Governo, anche questo anticipato dal Corriere della Sera, mentre Berlusconi, poi scagionato, ricordiamolo, sì, perché il fatto non sussisteva. Sempre il Corriere della Sera in mezzo. Riteneva il vertice sulla criminalità organizzata. Vabbè, lo sappiamo, sì, lo sappiamo. Lo sapete voi, ma i cittadini... No, lo sanno, pure ormai roba del 94, non gli frega niente a nessuno. Il Corriere della Sera anticipa un presupposto di difesa, che peraltro andava tutto ovviamente approfondito. E guarda caso, il Corriere scrive, la Cassazione recepisce, e quindi oggettivamente, come la mattina c'era scritto che la Cassazione poteva far prescrivere una delle normalità, però... la Cassazione per la prima volta nella storia, però, guardi... lo hanno detto avvocati di grido, come appunto... Ma perché lei non si incatena? Perché non si incatena davanti alla Cassazione? Io vorrei andare da Napolitano, vorrei parlare col Presidente della Repubblica, insieme a tutti i nostri parlamentari, tutti insieme, ma non so troppi. Il nostro grido di dolore, e si rendesse conto che c'è tutti una parte della magistratura che è politicizzata. Al Quirinale? No, sì. Tutti al Quirinale insieme, tutti i parlamentari al Quirinale. Sarebbe il caso, visto che ha sortito qualche effetto andare comunque al Palazzo di Giustizia a Milano, bene o male, insomma lo stesso Presidente della Repubblica. Ma che fare al Quirinale? Un pranzo? Vi ricordo che ma fare pranzo, a gridare la nostra indignazione, a gridare il nostro dolore. A dare le nostre dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, poi vediamo cosa succede quando dimissioni di massa. Parlamentari si dimettono. Dimissioni di massa, cioè lei, ma lei pensa davvero, che il primo altri metodi, no, d'accordo, lei pensa salvare la giustizia in Italia, sì, perché salvare Berlusconi significa salvare la giustizia, certo. Giustizia. La giustizia, quella la maggior parte della giustizia. Però, scusi un attimo, signor Biancofiore, però io dico una cosa, davvero lei crede che il 1 agosto, 2 agosto, voi, se ci fosse una condanna di Berlusconi, vi dimettete in massa? Assolutamente sì. Cioè lei si dimette sicuramente? Assolutamente sì, tutti ci dimettiamo, se ovviamente il Presidente Berlusconi ci dice che questa, ci ringrazia perché questa è una delle vie che stiamo... Comunque lo yoga a Berlusconi... Da ministro dello sport, una perdita enorme. Ministro dello sport, al momento c'è un ministro indicato, forse, non lo so, insomma, perché non è chiaro. Ma sarebbe una perdita terribile, sono sottosegretario sicuramente. Però io dico una cosa... Ma come fa lo sport in tutta Italia? Se ma no, ma il problema è lo yoga, lo yoga è fondamentale. Lo yoga a Berlusconi... Lo sport, come dire, persegue la sua strada bene anche se... Comunque guardi che il diaframma scende in tanti modi, il diaframma. Non è che non lo so, me lo insegnerà lei in quale altro modo. Io francamente conosco solo quello dello yoga. No, però, Biancofiore, lei mi si fidanza presto. Non ma si può, vabbè. Mi fidanza presto? Ma è fidanzato, ogni volta la incontro. Stava con delle bellissime ragazze l'altro giorno. L'altro giorno, Parenzo, la signora Biancofiore, era lì al ristorante dove l'ho incontrata, non si può dire per non fare pubblicità. Io sono stato molto conosciuto con delle ragazze, tra cui una molto bella, devo dire sono la verità. Sono le mie migliori amiche, ma tutte tu, e due. Perché sei sempre... Sono entrambe molto occupate. Ma no, ma nessuno diceva niente. Mi io piace non... per lei. No, perché ma non... Guardi non... sempre le... guardi sempre ma non le volevo fare nessuna considerazione, era per un dato di cronaca, un puro dato di cronaca. Adesso sono tiri indietro la mano pure, prima butti gli occhi e poi tiri indietro la mano. No, ma che c'entra, Parenzo? Non ho detto nulla, ho detto... Metti prima, butti gli occhi. Ma ho detto semplicemente che ero con delle belle ragazze, punto, non ho detto nulla. Ma perché devi sempre capire male? Erano in tre tra amiche, visto che non ci vedevamo da due ma mesi, sì, erano in tre. Sono andata al governo. Vabbè, comunque lo yoga a Berlusconi sarebbe fondamentale in queste ore, soprattutto fino al 30. Ma la meditazione serve anche per avere la mente più lucida. Beh, Berlusconi che fa meditazione non me lo vedo, che fa meditazione yoga Berlusconi non me lo vedo, Si sbaglia invece, è una persona molto tranquilla. No, ma non me lo vedo che sta lì a fare meditazione yoga con lei, cioè Biancofiore. Beh, comunque con me no, non deve farlo con me, non c'è bisogno che lo faccia con me, lo farà lei come istruttrice con la sua fidanzata, lo farà con la professoressa che è ribadisco, è eccezionale la mia professoressa di yoga, si chiama Patrizia. E Patrizia, Patrizia. Va bene, a presto, grazie, grazie. Grazie, grazie. Pubblicità. Grazie. La Zanzara. Eccoci qui, 800 24 00 24. C'è qualche pazzo che mi perseguita su Twitter, e non solo su Twitter, messaggi, mail, eccetera, per questa storia che ho detto del barcone. Cioè che sono stato un po'... No, ma sono stato sincero fino in fondo, perché non faccio l'ipocrita, non sono ipocrita come quelli che si disperano, fanno finta di disperarsi e invece poi non gliene frega un cazzo, hai capito? Io non sono ipocrita, dico come la penso, dico esattamente quello che succede al 90% delle persone, sarà giusto o sbagliato, è così, che ci si preoccupa per un minuto, si dice poverini quelli che sono affondati con il barcone e sono morti nel canale Sicilia, eccetera eccetera, dopodiché un minuto dopo ce ne fottiamo e pensiamo alle nostre cose. È così, è una realtà. Cioè, siamo molto più disperati per le tre persone che ha ammazzato quel nero, l'acabobo, come si chiama, quell'immigrato ghanese a Milano, perché ci immedesimiamo, chi? Piuttosto che per quelli ma che cadono nel barcone. Ma chi? Ma che roba è? Ma che shock dei sentimenti fai? Che roba è? Il supermercato dei sentimenti, la classifica dei sentimenti, siamo più indignati. Denis Forlì, Denis da Forlì, dai su, non fare l'ipocrita, Denis da Forlì. Dai. Mamma mia, che buonasera, Cruciani. Vai, vai, Denis. Sono vero Denis, vengo dall'Albania. E allora? Ma come si permette lei di dire delinquenti tutti stranieri? E ma chi l'ha mai detto? Ma chi l'ha mai detto, Denis? L'ha detto lei, Cruciani. Ma dai. Non ho detto che sono tutti delinquenti, lei non ha capito un cazzo. Su, dai. Poi perché non si preoccupi che vengono qua e li sfruttano con treno allora? Perché io lavoro autotrasportatori. Quelli che vengono sfruttati, quelli che sfruttano sono dei criminali. Quelli che sfruttano però, e che fanno lavorare le persone sottopagandole sono dei criminali. Dei criminali. Bravo. Però non puoi dire che tutti albanesi sono criminali o tutti stranieri. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Ma non ho detto questo, ho detto che è pieno di gente che viene dall'est e che viene in Italia per rubare e fare altre cose. Cosa, pieno. Mi scusi, allora un'altra cosa, ma non si ricorda lei la storia che ancora oggi voi come popolo siete voi un popolo immigratore? Non è che Sì, Denis, ma va benissimo, a me non me ne frega niente della storia. Senta una cosa, lei che mestiere fa, scusi? Faccio camionista. Mitico camionista, l'abbraccio fortissimo. Denis, dove lavora? In che zona lavora? Lavora da Rignale Trasporti qui a Cesena. A Cesena, vabbè, grazie, un abbraccio. Tommaso da Catanzaro, fuori un grande collegamento fra poco, un grande collegamento, non c'è. Giovanni da Cosenza. Mi fa impressione. Che c'è? Pronto? Mi fa guardare Giovanni. Il TG della 7 di Mentana. Sì, e chi mi se ne frega? In questo momento sta andando in onda lo show di Grillo, la conferenza stampa di Grillo alla Camera. Sì, certo. Mi fa impressione vedere questo guitto vestito con la giacca e la cravatta e la camicia della festa, quella che sai tutta, no? Si vede che lui non porta mai la giacca e la cravatta. Vabbè, allora. E la porta. E vedere questo guitto in giacca e cravatta che si atteggia a politico usando il suo linguaggio e tutto così, mi fa un effetto se fosse un marziano, no? Sai quei marziani, i visitors quando atterrano, vabbè, non mi pare una cosa, i visitors, vabbè, Giovanni da guardalo, no? Con quella fa lì vestito con la giacca e la cravatta come fosse un politico vero, no? Sì, vabbè, Giovanni da Cosenza. Pronto? Mi fa impressione. Sì, vabbè. Tante cose fanno impressione. Giovanni. Pronto? Dica però. Pronto. Sì. Buonasera signor Cruciani, complimenti per la trasmissione. Vada. Le volevo dire due cose rapidissime. Sì. La prima, io proporrei, dopo che Buon Giorgio Napolitano andrà in pensione, come suo successore, il grande Vittorio Sgarbi. Sì, certo, ma sicuro, guardi, è in pole position. Ma buona idea. Così lo voterebbero il 90% dei parlamentari. Il 90%. Sì, ma dai, su, io voglio bene a Vittorio, ma al Quirinale, ma di che parliamo? È un grande perché è super partes. Quindi. Beh, insomma, super partes adesso. Poi, la seconda riguarda Berlusconi. Io proporrei Berlusconi. Un nuovo condotto. Salvacondotto. Perché... è straordinario perché lei è il calabrese perfetto, il salvacondotto. Quando uno fa l'imitazione dei calabresi, no, purtroppo non sono razzista, per carità, lo direi. No. Ma continui, continui, che è eccezionale. No, no, io proporrei un salvacondotto, sapete perché? Perché ormai sono 20 anni che si va avanti con Berlusconi, la magistratura che lo rincorre, sì, quindi io proporrei un bel salvacondotto, così va bene. Tanto se il 30 luglio questo viene... sì. Viene condannato, sì. Può stare tranquillo che salta il governo, si va all'elezione. Se questo giro elettorale ha preso 9 milioni di voti, sì, la gente gliene darà il doppio. Lo so, però bisogna andarci alle elezioni prima di stare fuori. Comunque, grazie, grazie. Collegamento con. Presidente, buonasera. Ben ritrovato, presidente. Dov'è? Non lo so, non lo sento. Presidente, è caduto dalla seggiola, che è successo? Presidente. Starà mangiando i pascheri. Non lo so, starà mangiando qualcosa, vabbè. I pascheri alla adesso Sorrentina. Torniamo, adesso vediamo. Presidente Napolitano. Marcello dalla provincia di Milano, nel frattempo togliamo ovviamente l'inno d'Italia perché non mi sembra il caso, adesso proviamo di nuovo. Il collegamento con Quirinale è sempre un po' complicato, cioè le linee telefoniche, i servizi segreti, le interruzioni, eccetera. Marcello. Buonasera, dottor Cruciani. Volevo solo chiedere a quello scacciafighe di Parenzo, cosa ne pensa di quello che ha fatto il PD oggi, tutto qua? Buonasera. Come mi ha chiamato, scusi? Scacciafighe, allora? Vabbè, dai, andiamo avanti, scacciafighe. Ha detto lo scacciafighe di Parenzo, cosa pensa del Partito Democratico quello che ha fatto oggi, cioè consentire la sospensione di 24 ore delle Camere? Una stupidaggine colossale. Erika dalla provincia di Bergamo. Buonasera. Allora? Allora, prima di tutto volevo dire una cosa, che io la penso come lei sui fatti dei barconi. Cioè? E cioè che se vengono qua a rischio pericolo suo di loro, giusto? Poi? Poi volevo dire al signor Parenzo, visto quel berbenismo che qua, che là, che muoiono, che non muoiono, perché il Papa non è andato dai familiari di quelli di Milano che hanno preso picconate? Come mai? Sono morti anche loro, come mai non è andato? Visto quel berbenismo. Adesso lei sta dettando l'agenda al Papa, sta dettando l'agenda al Papa. Un attimo, io non sto dettando nessuna agenda. Lei dice perché il Papa non è andato a trovare le vittime di Kabobo, a parte che sono morte, dice, i parenti delle vittime, dice lei. Scusa, sono mica morti anche loro? Sì, vabbè, ho capito, ma... Mi può spiegare questo genio profondo? Mi può spiegare come mai? No, quello che allora... Ma che fai, pigli per il culo i bergamaschi? Non ho capito. No, beh, certo, può spiegare come mai? Un attimo. Io non sono bergamasca, primo, non sono bergamasca perché sono comasca. Era libero, io sono comasca, non sono bergamasca, io sono comasca. Il negro era libero, Cabobolo, gli ho sparato al negro libero, come mai? A Bergamo se uno cammina gli spalla se è un negro. Cabobo, come mai? Allora, ascolta, ma non sei proprio pirla, Ti sto dicendo che sono comasca. Non ci sono negri che girano liberamente per le strade. Anche il negro che gira per le strade, non può, E come mai il migrato negro che gira? Senti il pezzo di merda d'un cafone. Che tu sei un cafone, va bene? Quando parla la gente, tu la devi stare a sentire. Dopo casomai risponde, capito? Quando parla la gente, tu non hai il cortile che è starnazza, va bene? Tu sei loca, il cortile che è starnazza. Hai capito? Cafone di pirla. Tu sei un grandissimo pirla. Pirla, va bene? Cafone. Quando parla la gente di Bergamo, cafone. Senti, tu sei un cafone. Tu sei un cafone. Cafone, castrone, va bene? Davide, parla... Non sentire, se no tanto male che dici telefonate alla zanzara, va bene così? Pezzo di merda! Stia calma, signora, stia calma. No, non perlo! Stia mi lascia calma. Parlare, poi cosa mai mi risponde, noi facciamo il cazzo che vogliamo, facciamo parlare oppure non facciamo parlare, non è che decide lei. Però se non vi lasciate dire il mio concetto, ma l'ha già detto sul Papa, ha già detto sul Papa. non mi ha lasciato neanche finire perché ha cominciato subito con Bergamo. Io sono comasca, va bene. Vabbè, ma provincia di Bergamo c'è scritto qua. Lei dove abita? Sì, dove abita? Perché adesso abito a Bergamo. E vabbè, d'accordo, che ce ne frega a noi, Bergamo, come, allora, come uguale. Allora a me della Lega non me ne può fregare un cazzo di meno, va ma bene. Ma non è la Lega, lui non stava parlando della Lega, la stava prendendo in giro sul suo atteggiamento. Ci sta, Erika, su, non cosa ci sta? Ma lei gli ha dato del pezzo di merda, resti lì un attimo perché siamo tornati col collegamento, aspetti. Ma queste linee che cadono. Presidente Napolitano, buonasera. Buonasera Cruciani, oh, e finalmente. Buonasera ai radioascoltatori della emissione di successo La Zanzara. Emissione. Vabbè, comunque. Senta, presidente. Ma perché dice emissione? Un piccolo problema di rete, come mi spiegava Casaleggio poc'anzi. Sì. Tant'è vero che mi sono sporto ora sul balconcino del Torritto per riuscire a collegarmi in diretta con voi e con il paese. Cioè, scusi un attimo presidente, lei in questo momento, non per farmi gli affari suoi, però siccome evidentemente le linee telefoniche sono un po' disturbate, lei si è dovuto arrampicare un po' sul Torritto, su uno sono delle... un poco sporto al balcone. Al balcone, benissimo. Ma per gli italiani, per il paese, attraverso la vostra saggia opera di operatori dell'informazione. Sì. E duopo ed è anche piacevole. Presidente, le voglio chiedere subito una cosa, ma innanzitutto questo capogruppo, nuovo capogruppo al Senato dei 5 Stelle che si chiama Morra, signor Morra, ha detto che lei non finirà il settennato. A noi ce l'aveva già detto il suo ex portavoce Cascella. Qui vogliamo però o una smentita o una conferma ufficiale, urbi e torbi, davanti a tutti, presidente. Io davanti a tutti... E come dico anche a Morra, come ho avuto occasione, ricordo bene, di dire a seguito delle affermazioni dell'ex consigliere Cascella, vado avanti e, come si direbbe in una nota emissione televisiva, ringrazio per l'offerta ma proseguo. Prosegue, insomma, ringrazia per l'offerta. Assolutamente, ma lei... io ritengo che il momento istituzionale sia grave, certo. sia grave e necessiti di una guida ferma, necessiti di passi adeguati, necessiti della capacità di ascolto che anche oggi abbiamo avuto, avuto con il signor Grillo. Il signor Grillo e Casaleggio. Ma che effetto le ha fatto questo? Defaticante. Ah, defaticante, ha avuto un effetto defaticante. Cioè, capito, che ha fatto? Che come è... Defaticante. Cioè, è stata una cosa defaticante, che vuol dire? Che come andare in palestra? Le devo dire che due ore con Grillo, non per un'occasione, diciamo, di spettacolo, ma per trattare temi seri, è stato complicato. Da un lato anche interessante, ma devo dire che ne ha sparate più di altri. Ah, cioè è arrivato a parlare... Come abbiamo letto poi con gli organi di informazione, ha parlato di fucili e di forche, di bastoni, quando neanche il Bossi prima maniera. Lo so. Diciamo dunque, ne ha sparate di cotte e crude. Ma quando lei, cioè quando ha parlato di un paese che insomma potrebbe prendere i fucili, eccetera, lei come ha reagito, presidente? Devo dire che con la signora Clio ancora ne stiamo ridendo. Ah, ancora state. Siamo andati a recuperare un vecchio moschetto nella sala d'armi dei corazzieri, e ancora ci stiamo giocando. Diciamo che la cosa è così, insomma. Non sono cose serie. No, certo. Presidente, sentiamo la linea. Ma molto. Siete ancora andati a tavola? No, non sono ancora andati a tavola, però di casa. Ora stiamo per metterci. Sì. E diciamo che Grillo ci ha rimorato l'appetito. Scusi un attimo, ma è vero che non c'è wifi al Quirinale, come ha detto Grillo? Ma effettivamente io ho appena sentito questa cosa dal dottore Casteggio, ho subito incaricato un commesso di andare ad acquistarlo nella più vicina rivendita. Ma non è non è che si acquista. Mi hanno detto che non è così semplice. Certo. Di reti conoscevo quelle unificate, lo so, ancora diciamo ricordi del genere, ma apprezzo lo spunto e devo dire che stiamo già operando con il nuovo consigliere per la stampa e la comunicazione per dotare il Quirinale del più avanzato sistema di connessione. Lo so, però bisognava pensarci prima, perché presidente, cioè, comunque vabbè, lasciamo perdere. Senta, un'ultima cosa, ma signor Morra sempre ha detto Napolitano, ci ha parlato come un vecchio nonno, ma che impressione le ha fatto Casaleggio con quei capelli? diciamo che abbiamo la barberia anche al Quirinale e un taglio di capelli non glielo nega nessuno. Non glielo nega, ma lui che ha detto? Era d'accordo? Acceliato, diciamo che abbiamo passato con Casaleggi un momento di così di piacevole conversazione che aver parlato di cose serie, diciamo che le cose serie si trattano con soggetti più autorevoli. Vabbè, Presidente, che si mangia stasera? Semplice, pepata di cozze, sì, fresca, con pomodorini dell'entroterra di Salerno. Sì, perfetto, saluti la signora Cria, Borsa, saluti. Sta fumando, io la saluto, piacere, sta fumando viva pure. Italia, viva la Repubblica, viva la Zanzara. Borsa. La Zanzara. Ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. Non rilassarti mai, lei non dà tregua, sai, finché non punge lei tranquilla non sarà. Neanche attraverso il Parlamento si fanno i grandi cambiamenti, attraverso l'opinione pubblica. Allora gli ho suggerito di andare in televisione, magari una volta a reti unificate, e di dire finalmente la verità di come sta il paese in questo momento. Non c'è più tempo. E la zanzara che arriva ogni estate in città, e la zanzara che punge e poi se... ho ringraziato il Presidente della gentile accoglienza, anche se mi ha accolto in una sala dove non c'era neanche il segnale telefonico, non c'è il wifi. Vabbè. E la zanzara che ama la tua compagnia si chiama Tigre oppure si chiama... E cosa ha fatto Casaleggio? Sentite ancora Grillo. Casaleggio c'era, è stato un dialogo tra il Presidente e lui molto, molto interessante, perché ha spiegato un po' di rete, il web. Il Presidente è accorto, è molto accorto, e sa molte cose, non è che sia proprio ignaro di certe tecnologie. Era lì perché è il cofondatore del movimento e quindi mi è sembrato giusto in un incontro così amichevole poterglielo presentare e fargli capire anche e fargli vedere che persona è, insomma. Ma tu te lo immagini, Parenzo, un confronto tra Napolitano e il signor Casaleggio che parlano di web, dai, su. Non riesco, no, secondo te, non riesco, secondo te, proprio neanche visivamente, no? Cioè io immagino l'arrivo di Grillo, quello sì. posso vederlo, sì. Sì. Che arriva con la macchia, ci sono i corazzieri che si mettono sulla tenda, lui che tira giù il fenestrino, ma siete morti, gli dice. Il corazziere non posso neanche parlare perché il protocollo prevede che gli facciano il saluto, no? E lui guarda e dice: ma siete morti, non servite a nulla. Morti, finiti. Bisognerebbe mettere due iPad al posto in vostro, Germania non due corazzieri. Due iPad, in Germania lo fanno, e della Merkel non ci sono, ci sono iPad dappertutto. Poi entra con la macchina dentro, sì. Tutto lo dice: buonasera, dottor Grillo, il presidente la... non mi può attendere, non c'è nessuno, è un avatar. Napolitano è un avatar, Basta, tu non riesco a immaginare altro. Ma scusa, ma qualche secondo te c'è stato qualche accenno, che ne so, alle cose che succedono in Germania, cioè rispetto a questo palazzo, no, al costo generale del Quirinale? Ma sì, gli avrà detto sicuramente, ma non serve a un cazzo, ma è un palazzo, va bombardato, va raso al suolo. In Germania è un posto così, ci fanno le scuderie del Quirinale, i cavalli al massimo dentro, che ci cagano dappertutto. Un grande parco, un grandissimo parco di energia solare. In Germania non esiste, in Germania lo fanno dappertutto, ovunque. Giovanardi al Senato. C'è anche un convegno sui diritti dei maiali, senti. Quindi lei sarà, chiede? Finisco un convegno sui diritti dei maiali la prossima settimana al Senato, i diritti dei maiali, perché c'è tutta una cultura che vorrebbe limitare gli allevamenti, la filiera agroalimentare, per esempio l'allevamento di visone è stato tutto distrutto dagli animalisti, le pelli le vogliamo prendere all'estero. Allora io dico, se c'è una cultura contraria al lavoro, che per fare cose che in tutti i paesi europei stanno facendo, e che noi evidentemente non vogliamo fare o vengono ostacolati, i ragazzi dove vanno a lavorare? Beh, adesso voglio dire, cioè, io non so davvero se questa cosa corrisponda a verità, ma c'è un convegno sui diritti dei maiali al Senato, come dice Giovanardi, lasciamo perdere le consigli. No, dimmi. Ma tieni presente questo, devi sempre tenere presente questo. Chi l'ha detto questo? Giovanardi. Hai detto tu, no, scusami, chi l'ha detta questa cosa? Giovanardi. Ecco, ma fermiamoci qui. Ma perché? Ha detto che la settimana prossima ci sarà un convegno sui diritti dei maiali. E vabbè, allora. Chi ha detto questa cosa, scusa? Giovanardi. C'è qualcos'altro da aggiungere? Signora Erika? Buonasera. Signora Erika, allora. Allora. Dalla provincia di Bergamo, Parenzo è la solita, eh? Ah, sentiamo. La solita di prima. Allora, perché signora Parenzo è un pezzo di merda, scusi, Erika? Allora, perché lui ha il brutto vizio che sì, quando parla la gente, lui deve parlarci sopra. Ma non è vero. Parla la gente? E allora, abbia fatto dire sì o no? Posso finire il discorso sì o no? E posso finire di dire che i negri gli vogliono sparare tutti i negri? Posso finire di fare il ragionamento sui negri? Certo che può, prego. Erika, allora? Allora, se lui continua a fare il pirla, perché sta facendo il pirla, se lui la fa gente il pirla, perché ormai chiamiamo i negri, chiama negri, eh? Erika? Guardi, lasciamo perdere. Allora, io sto dicendo che quando lui interviene e urla come un che urla che sembra un'oca che starnazza, gli ascoltatori che sono a casa non capiscono niente. Sì. Non riescono a capire né quello che dice quell'oca padovana lì, e sì, né quello che dice quello che sta telefonando. Parenzo. Tutto qua il discorso, è tutto qua il discorso. Perché se io voglio ascoltare la trasmissione, voglio anche capire la gente cosa ha da dire. Sì. Giusto o no? Se no non lo ascolto, faccio prima. Bene, Parenzo. Tutto qua il discorso era che lui quando si mette a urlare sembra un'oca che un cortile che sta starnazzando. È un'oca del cortile a Bergamo, sempre è l'oca del cortile di Bergamo. Tu dici, a Bergamo, allora Cruciani, tu dimmi che non è un pirla, tu dimmi che è non la è un visione pirla del mondo che passa tutta da Bergamo, e Bergamo è il centro del mondo. La trasmissione che hai fatto su Rai 3 potevano dartela appena te da condurre, perché a uno sano non gliel'avrebbero mai dato. Ma perché non è andato un negro a condurre su Rai 3? Hanno scelto te perché hanno dato un negro, a un negro sbarcato a Bergamo quella roba su Rai 3 erano i negri. In questo momento sta ascoltando tutto, perché non ascolta niente, perché sei un'oca che starnazza come al solito. Io se ascolto la trasmissione voglio anche sentirla, hai capito sì o no? Hai capito? Ma vuoi capire sì o no? Si chiama mica guerra dei mondi, guerra dei negri, quella roba di Rai 3 lì. Devono allora mettere un barcone con dei negri. Ripeto ancora, pirla. Io non ho niente. A Bergamo è così, A Bergamo c'è un negro ed è così anche. Pirla, dove abito io, sopra di me abitano 5 negri e non ho niente a che dire con loro, hai capito? Pirla! Prima di dire le cose, ascolta la gente cosa da dirti. Primo, dopo che hanno mai detto sopra, hai capito? Hai capito sì o no? Grazie Erika. Non ho mica niente a dire con quei 5 negri, Ciao Erika. Ma respirano quei negri là sopra. Stefano da Genova, Stefano. Hanno sempre due occhi e un naso quei negri, strano, eh? Stefano. Mi sente? Sì, dica. Bene. Allora, senta, mi consente un'informazione di servizio da prima? Sì? Vada! Bene, sulla pubblicità, capisco che si alzano il volume e questa è una cosa purtroppo che viene sempre fatta, ma in particolare c'è la pubblicità di una catena di elettrodomestici che non nomino, dove due scemi urlano a oltranza, e io mi sono posto l'obiettivo proprio di non andarci lì, ecco, bene. Controproducente. Fa bene a dirlo, poi? Bene. Poi volevo dire, mettere un punto fermo sulle polemiche riguardo a due amenità, a mio parere, ma senta che lei ha detto. Sì, però lei dove si trova? Dove si trova, Stefano? Scusi, dove si trova? Mi trovo a Genova. Sì, ma dove? Casa, c'ha l'auricolare, c'ha il viva voce, che c'ha che non si sente un cazzo? Sono in macchina da... ho capito, è un problema, certo che è un problema, non è che può parlare in macchina guidando così col viva voce, tranquillamente. Altrimenti... Adesso mi sente meglio? Sì, dica, su. Perfetto. Allora, è evidente... Sì. Che una persona che si imbarca, sì, lascia il proprio paese, la famiglia e tutto, sì, non abbia molta scelta. Bah. Allora andare a commentare che queste persone sanno, conoscono i rischi ai quali vanno incontro, mi sembra abbastanza, non solo banale, è inutile. Sì, inutile, benissimo. Ecco, questo è il primo. Poi? La seconda cosa, sono d'accordo anche con lei invece sul fatto che ovviamente a seguito di morti e morti e morti si perda la sensibilità. Sì. D'altronde muoiono tanti bambini ogni giorno nel mondo. Va bene, ho capito benissimo, Stefano. Grazie, abbiamo il traffico, torniamo subito. La zanzara. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Francesco da Parma, buonasera Francesco. Come stai? Come sta? Buonasera. Volevo solamente dare un suggerimento alla trasmissione che veramente ha degli spunti molto interessanti. Perché questo turpiloquio? Non c'è nessun turpiloquio, la faccia finire con questa storia. Non c'è nessuna parolaccia. Cazzo è una parolaccia. Se vuole le faccio un trattato intero sulla parola cazzo. Le faccio un trattato intero sull'origine, chi la usava e chi non la usava. Lei lo usa nella vita? La parola cazzo la usa o no? Ma sì, la posso la usa usare, e basta, però, se la usa nella vita non capisco perché non la devo usare io. La parola cazzo si usa, sì, alla radio, lo uso alla radio, allora? Sì, ma anche con turpiloquio secondo me. Ma quale turpiloquio? Non è turpiloquio. Solamente un suggerimento, che è inappropriato un linguaggio del genere. Ma non è appropriato, chi lo decide? Ma chi lo decide? Lei? Chi lo decide che è appropriato e inappropriato? È una sua impressione sbagliata, però se lei non sta, se lei non sta bene cambia canale. Se sbagliata lo dice lei, siccome è condivisa da tante persone. Beh, sarà condivisa da tante persone, non mi pare, ci sono altrettante che invece non la condividono questa cosa. Comunque le parolacce secondo me non sono educative. Beh, e fanno scendere di livello. Nessuno vuole educare, sì. Guardi, qui non stiamo qui a educare, questa è la vita, questa sì. È la vita, ha capito? È la vita. La vita. Allora parliamo in questo modo. Voglio dire, il mio suggerimento scade, sì. Il livello della non scade nulla, non scade nulla. Grazie Francesco, grazie. Grazie a lei, grazie. In collegamento da Ibiza. Beh. Alba? Che passa? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Come che passa? Adesso sei da tre giorni a Ibiza, già parli spagnolo, ma che è? Ma è evidente, come tutti gli italiani, no? Non c'è un cazzo da fare, stai a Ibiza, diciamo la verità, questa è la verità. Ma ragazzi, ringraziate che io non ho un cazzo da fare, perché se avessi qualcosa da fare voi non avreste più niente da fare. Perché? Perché vuoi sostituirci perché per caso? Se lavorassero quelli che si meritano di lavorare, voi sareste a casa. Oh, basta con questa storia del merito, che tu sei non lavori perché chissà quale complotto c'è. Io veramente lavoro e anche tanto, non ti preoccupare. Ma dove? Non ti vede nessuno, dove lavori? Dove la televisione tutto l'anno, non lo so. Dove lo l'hai so fatta? Che tu non la guardi perché non te la puoi permettere, però. Ma che televisione hai fatto tutto l'anno? Ospite hai fatto? Certo, sì, perché tu invece che televisione fai? Ma io la televisione non la faccio, per cui non ho problemi. Ma mai chiamato per interpellarmi su qualcosa o per rompermi le palle? Per romperti le palle? Per rompere le palle. Per sapere. Che fai a Ibiza, Alba? Che fai? Ti fai massaggiare, fai massaggi? Che fai? Stai con un boyfriend, con un toy boy? Con chi stai? Massaggi? Ma che fai? No, tesoro, faccio le vacanze, c'ho casa a Ibiza. Hai casa a Ibiza? È quella di sinistra che ha la casa a Ibiza, signora. Veramente, ti posso dire una cosa? La signora Ibiza. Veramente una battuta degna della Sant'Anchè, ti posso dire. Beh, la cosa non mi offende. La cosa non mi offende. Lascialo, non curarti di lui. Allora, a parte che ti ho detto che io ribadisco che tu mi chiami per rompermi le palle e non per parlare. Però, sì. A parte lui questa, ha questa idea, caro mio, me li sono guadagnati onestamente nella vita. Sì. Non ho fatto nulla di illecito. Ma chi dice il contrario? Ho pagato le tasse tutta la vita, me li sono meritati e se posso permettermi una casa di Ibiza lo faccio grazie al mio lavoro. Ma casa di Ibiza. Tra l'altro, sola e libera, che ha rinunciato anche a 9 miliardi con Berlusconi. Beh, ancora con questi 9 miliardi di Berlusconi, ma è tutta una panzana, tesoro, ma è una panzana. Nonostante tutto li ho guadagnati lo stesso. Ma è una panzana. Quando potrai permetterti una casa di Ibiza, essere una donna libera con me, eccetera, eccetera, ti farai un bel paio di tette pagate da te stesso e non ma da... perché mi devo fare tette? Un coraggiatore potrai commentare. Ma io sai che scherzo, no? Sai che scherzo, però mi fa impressione. Sto parlando sul serio. No, ma devi parlare sul serio invece. Tu devi sempre parlare sul serio. Io vorrei capire una cosa. Ho letto una cosa clamorosa oggi, clamorosa, che tu hai avuto un amore ossessivo, ti ha salvato uno psichiatra, cioè un uomo che tu praticamente hai alla fine quasi detestavi, però non riuscivi a farne a meno. Che cos'era? Sì, sesso? Ma non vorrei raccontare questa storia nostra personale, hai capito? Che riguarda noi, che riguarda noi, sì. In passato. E lo so. Io non volevo rendere noto il tuo nome, ma adesso mi tocca farlo. Beh, devo dire che sono state delle nottate pazzesche. Giorni e notti pazzesche. Beh, giorni e notti, adesso io al massimo posso fare due volte a sera, non è che posso fare di più. Cioè, più di due ecco. Difficilmente riesco, cara Alba, lo sai. No, io lo comunque sai. Non mi ricordo esattamente quando ho fatto questa intervista, ma c'erano già i primi caldi, hai capito? E allora evidentemente... Ah, ecco, ti sei già pentita di questa intervista, diciamola tutta. No, lo so, ma sai quando poi ti leggi, quando racconti queste cose, magari tu sei nell'intimità della tua, che ti viene voglia di dire quattro cazzate in più. Sì, poi le rileggi e dici, ma perché lo so? Perché l'ho detto, hai ragione, sì, hai ragione. Io non le faccio mai, infatti, io non le faccio mai. Ma quando... chi te le fa, scusa? Senti, stai tranquilla, che qualcuno me le fa anche a me, Ma che cosa ti fa, che cosa? Ogni tanto delle interviste, tentano di farmi delle interviste sulla mia vita privata. Quelle altre cose. Ma scusa, voglio dire, ho capito. Ma lo sappiamo. Oh, basta con sta storia. Ma basta. Sappiamo tutto. Ma che sai tutto, dai. Tutto è passata la storia, Erpantera. Ma ancora con sta cosa ridicola, dai. Ma chi era questo amore ossessivo con cui facevi sesso in maniera pazzesca? Ma te l'ho detto, non voglio svelare il nome perché gli farei troppa pubblicità. Sì, ma veramente era così bravo a letto? Ammazza. Ma era un filosofo. Chiedegli dei consigli. Ma era di sinistra o di destra? Era un filosofo? No, ma che filosofo, amore, ma guarda le date, non so, ma veramente. Ma non ha letto nulla, Parenzo, non ha letto niente. Scusate, ragazzi, adesso io non è che voglio dire, però voi avete soldi da spendere. Sì. Perché mi chiamate per parlare di queste cazzate. E mica paghiamo noi, paga Confindustria, che ci frega a noi. Questo è vero, e la Confindustria paga per sentire queste cazzate. Esatto, brava, esattamente, sì, anche tanto paga. Sono con te, quindi la prossima volta che ci vediamo. Scusa, Alba, tu sei sì, assolutamente, io non ti ho mai offerto una cena, possiamo anche uscire, ma io non sono bravo come ora. Non sono bravo come quello, me la cavo, ma non sono bravo come quello. Mi spiace. Vabbè, però insomma, quello almeno offrivo ogni tanto. Offriva, ma chi non offre ad Alba Parietti una cena? Come dire? Ma tu non vuoi sapere che cosa ho visto a Ibiza in questi giorni? Ecco, innanzitutto c'è questo paese dilaniato, questo paese disastrato, questo paese in condizioni pessime, questo Parlamento in rivolta, Berlusconi, eccetera, eccetera, e Alba Parietti è a Ibiza in vacanza e se ne fotte di tutto. Perché io sono qui per controllare tutte quelle che sono nel processo praticamente. Cioè? Perché io qua le ho trovate... No, perché devi sapere che qua ci sono. Ieri sera, cioè non faccio solo questo, io normalmente vado a cena in posti piuttosto riservati, Ibiza è piena di ristoranti. Sì, certo, Ibiza è un posto riservato. No, certo. Te lo giuro, si può fare una vita molto molto riservata. Ritirata, certo. Ieri sera però sono andata a trovare un mio grandissimo amico che è gestore di uno dei più grandi catene di ristoranti al mondo, è un ristorante meraviglioso anche qua, non diciamo chi è, uno che io adoro, eccetera, eccetera, e in questo ristorante chi trovo? Tutte le... groupies di Berlusconi, da Laminetti all'Azzardo alla Laminetti, pure Laminetti stava. Che fanno i beat? No, Laminetti è in testa a tutte le classifiche. Come? Ma che facevano i beat? Ma ti sei avvicinata alla signora Minetti o no? No, me la volevano presentare, ma io ho detto che non parlo con i politici, lei. Ma quella non è più consigliere regionale. Cioè, ti ah fa... no, allora la prossima volta non sai niente, è passato un anno. No, ma sai, io pensavo che non era il caso di salutarla perché bisogna mai parlare con gli assessori, con i ministri, con le cose, perché sennò assessori. Poi ho detto guarda, Giuseppe, ho detto questo signore che si chiama Giuseppe, pure non lui, me la presentare, pure non lui. Ha importanza. Pure lui si chiama Giuseppe, come me, vabbè. Eh? No, pure lui si chiama Giuseppe. Parenzo, che fai? Sei morto? Che hai fatto? Io? Parenzo, non so. David? Parenzo vi ha lasciato. Tante di quelle gnocche ieri sera, ti giuro, non ho mai visto tanta, veramente, quantità. Ma è gnocca? La Minetti è gnocca? Insomma, diciamo che non si fa notare la ragazza. Un po' rifattina come te, un po' ritoccatina. Beh, ti ringrazio per questa cazzata che hai detto a quest'ora, non te la potevi far mancare, ma lo sappiamo che la classe non è acqua, no? Ma guarda che io non lo dico in senso negativo, in senso positivo, ma comunque sempre solo la bocca e le tette, se poi vogliamo fare una scommessa e scommettere tutto il tuo stipendio su qualcos'altro. No. Invece tu, perché non ti rivolgi al mio chirurgo plastico, così finalmente ti dai una dritta di da dove? A che cosa? Avrei un sacco di roba da mettere a posto, io ti potrei dare dei sani consigli. Sì, ma vuoi andare in galera? Vuoi andare in galera, scusa. Ma scusa. Vorresti che Berlusconi andasse in galera? Sì, No, perché? Vorresti no. che fosse condannato, che fosse condannato. No, no. Ah, ma io nel modo più assoluto, forse no. lo vuoi tu. No, è una domanda che ti faccio. Tu, donna di sinistra, hai Ibiza in vacanza? No, non avrei, io non faccio parte di quella sinistra che gode delle disgrazie no, degli altri. Io non vorrei che questo paese andasse in questo paese, io vorrei che andasse in galera chi ha fatto delle cose che non doveva fare. E vorrei che noi fossimo un paese di cui ci si può vantare, capito? Io vorrei potermi vantare all'estero di essere italiana. E invece adesso quando vai all'estero un po' di quando vai a Ibiza un po' di vergogna, No, no, che non può, mi vergogno, come tutti gli italiani all'estero, insomma, lo sai benissimo anche tu che ci pigliano un po' per il culo, no? Bah, non lo so, Parenzo, che c'è? Ma secondo te fa il tiro? Non capita perché tu sei sempre a Roma, hai capito? Sono sempre, no, a Roma, a Milano, sono sempre a Milano, ogni tanto a Roma. Insomma, tra Roma e Milano non ti muovi, quindi chi ti piglia no, per è vero, il culo? Hai ragione. I paesani, quelli di Quarto Giaro, chi vuoi che ti pigli per il culo? Vabbè, Alba, io ti adoro, lo sai, prima o poi dobbiamo avere una storia assolutamente, dobbiamo fare io e te qualche cosa. Vi lascio soli. Qualcosa insieme, no, una storia no, sarebbe troppo banale, però qualcosa. Mi piace che lui non parla mai quando parliamo, ci lascia proprio, si gode questo spettacolo. Vabbè, ti do un bacio, dai. Una mezz'ora di riposo, anch'io a te. Ma forza, forza Renzi, fai il tifo per Renzi o no? Ma neanche, chi se ne frega, sì, ma stai Ibiza, meglio Ibiza, meglio Ibiza, hai ragione, meglio Ibiza. A domani, a domani, 18:30, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando lo dica, a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.